Cruciani e con Parenzo dico solo quel che penso. Con Parenzo e con Cruciani siamo tutti meno cani. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Sai cosa mi dicono in giro sempre? Ma guarda che te lo dico davvero, è la verità, mi dicono: senti, ma quando vai lì alla zanzara, no? Ma quel Parenzo, ma quando lo vedi a tu per tu non puoi sputargli in faccia? Prima di parlare di Salvini, della sua uscita oggi sui Rom, eccetera, eccetera. Oggi è la giornata internazionale dei Rom e dei Sinti. E io aggiungo chi se ne frega. No, io poi parlerò a lungo di questo. No, nel 1971 non c'è a Londra, bisogno di parlare a lungo. Intellettuali di Rom si ritrovarono. Vabbè, non e me ne stabilirono frega. Che il termine Rom vuol dire uomo. Vabbè. E la denominazione ufficiale del gruppo. Parleremo Vabbè. Diffusamente di questo. No, non parleremo con sociologi, di intellettuali. Ma assolutamente no. Assolutamente ma no, ma ti renderei sì. conto sì, che sì, non sì, parleremo sì, affatto sì, con sociologi intellettuali. Assolutamente. Però prima di affrontare questa cosa sì. di Salvini, che poi in realtà è una Vergognosa. Frase che ha sempre detto, Vergognosa. È una frase che ha sempre detto ed è assolutamente legittima. Vergognosa. No, no, assolutamente legittima. Ma comunque, poi sentiremo, poi vedremo, eccetera, eccetera. Io voglio dire una cosa: basta con questa storia del collegamento con l'astronauta Cristoforetti. Io non ne posso più di uomini politici, presentatori, quelli sono un po' più giustificati, diciamo, no? Presentatori TV, trasmissioni che si collegano con l'astronauta italiana Cristoforetti, facendola diventare una specie di macchietta ormai. Pare che, come dire, sulla stazione spaziale, non so come diavolo si chiami, non si trovi altro da fare che collegarsi con le trasmissioni, col Presidente della Repubblica, cioè, adesso anche Renzi. Non so se sia la prima volta o no, però dico basta, non se ne può più. Cancellate questa cosa ridicola del collegamento con la Cristoforetti, ma lasciatela in pace lì nella sua. Lì, cosa fa? Ma non è ma sta ma facendo il suo mestiere. Non trasformate questo astronauto in una specie di macchietta. Che poi il Presidente del Consiglio, se deve parlare con questa Cristoforetti, ci parli in privato, la chiama, com'è, tutto a posto, c'è bisogno di qualcosa, possiamo fare qualcosa. È un simbolo dell'Italia, ma chi ma della bellezza italiana. Ma perché uno ci deve talento. Fare vedere questa roba qua, il collegamento, dire ma che cos'è questa cosa che suona? È una cosa incredibile, c'ho io qualcosa che suona. Vabbè, Renzi. Visto che lei sta facendo anche molti esercizi fisici, vederla correre sul tapis roulant, comunque provare a fare degli esercizi gimmici è molto interessante. Se non sbaglio, qualche settimana fa ha scritto su Twitter che era un po' preoccupata perché dovrà fare molto stretching per recuperare la massa muscolare. Tu ti rendi conto o no? Cioè, Renzi che parla con la Cristoforetti dicendo l'ho vista correre sul tapis roulant, era preoccupata, deve recuperare la massa muscolare. Tu capisci che diventa tutto un motivo di propaganda assoluta. Forse la cosa più sobria l'ha fatta il Presidente della Repubblica, ma comunque basta con la Cristoforetti. Vi prego, basta con la Cristoforetti. Poi ci ha comunicato Renzi che è stato rimandato in scienze. Oh, ho saputo pure che è stato rimandato in scienze. Allora. Ma se dovesse spiegarlo a uno come me, che sono un po'. Io penso che sono anche rimandato in scienze, quindi non lo dico adesso, mi contesteranno tutti qua, quindi non sono particolarmente bravo. Qual è l'esperimento che più gli è piaciuto in questi ormai 4 mesi e mezzo? In cui dal giorno della partenza, qual è forse l'esperimento che più l'ha colpita, spiegato a una persona che ha molto da imparare come me? È difficile sceglierne uno. E ancora prima prima di affrontare la vicenda Salvini dei Rom, la vicenda Salvini e Rom, la andiamo... vicenda formaggio, spero, del signor Formaggio. Aspetta, signor Formaggio, sindaco di Albettone numero uno, fra poco lo chiamiamo, secondo me. Signor Formaggio. Grande. Signor Formaggio. Giannino, Oscar Giannino numero uno, sempre sul finanziamento pubblico dei partiti. So che non interessa più nessuno, però ci sono solo 16.000 persone, per fortuna, solo 16.000 che hanno dato soldi volontariamente ai partiti su tutti i contribuenti. Questo tradisce lunga. Per fortuna ci sono 16.000 persone, solo 16.000 persone che hanno dato soldi ai partiti, gli altri se ne fottono e fra poco saranno sul lastrico e dovranno andarsi a cercare i finanziamenti. I partiti bussando, facendo toc toc, mi dai dei quattrini? La gente dirà no, non siete credibili. Oppure quando diventeranno credibili? Il risultato quale sarà? Quando diventeranno credibili i partiti, la gente magari sborserà dei quattrini. Comunque sentiamo il mitico Giannino che dice. Detto tutto questo, sono troppi quei 16.000 italiani. Meno ancora devono ancora dare soldi ai partiti. Ecco, meno ancora. Io penso. Troppi. L'altra comica di Renzi che dice di avere ridotto le tasse, Bonafè, e ovviamente tutte le sue persone, tutte le persone che sono al suo servigio, come dire, no? Beh, no, che la pensa anche lui. Servigio. È talmente bravo a comunicare Renzi che non è riuscito a comunicare l'operazione più importante che ha fatto, che è quella appunto della riduzione delle tasse. Mi prudono le mani sulla forestale, sul corpo forestale dello Stato, per carità, alcuni elementi in alcune zone d'Italia servirà pure il corpo forestale, bisognerebbe accorparlo ad altri corpi di polizia, è un discorso lunghissimo che forse ci interessa poco, però per farti capire su cosa lavorano questi tizi della forestale, pare che sia stato aperto un fascicolo, ti giuro, un fascicolo dedicato agli gnomi e alle fate dei boschi. Ti giuro, strani avvistamenti in un fascicolo della forestale. Pare che da 15 anni sia aperto un fascicolo, dunque qualcuno ci ha lavorato sopra, su gnomi e fate dei boschi. E poi, popolo della radio, amici della Zanzara, vi siete stupiti della notizia che è uscita fuori oggi di una Sicilia che è praticamente in bancarotta con 7 miliardi e mezzo di debiti? Vi siete davvero stupiti con tutti gli sprechi che ci sono, gli stipendi elargiti a destra e a manca? Davvero vi stupite di questi debiti? Io no. Salvini e i Rom. Di cosa farei io al posto di Alfano o di Renzi? Do un preavviso di sfratto da qui a 6 mesi. In Europa non esistono i campi Rom, quindi da qui a 6 mesi io preannuncio la ruspa in tutti i campi Rom. Ti organizzi, ti attrezzi, la casa la compri, l'affitti, la chiedi, fai il mutuo come tutti gli altri cittadini, e io fra 6 mesi spiano, cioè, rado la soluzione al suolo è chiudere i campi Rom tutti. Allora, io non capisco lo scandalo di questa frase qua. È da tempo che la posizione della Lega sui campi Rom è abbastanza chiara, lampante. Salvini dice una cosa: io do l'ordine di sfratto, tra l'altro l'hanno fatto anche altri sindaci, anche Tosi l'ha fatto a Verona anni fa. Cioè, do l'ordine di sfratto ad un campo Rom, tra 2 o 3 mesi, lui dice addirittura 6 mesi, da qui via, fuori dai coglioni. In 6 mesi te ne puoi andare, se dopo 6 mesi non te ne vai, arrivano le ruspe. Ma mi pare una cosa normale, tranquilla. Beh, no, normale, scandalo! Uno scandalo pazzesco, frasi razziste, il presidente della Camera cos'è che ha detto? No, radere al suolo un verbo inquieto, beh, basta con sta canzone, con sti campanelli, andiamo, dai. Questo verbo lo trovo abbastanza inquietante, questo verbo radere. Io ritengo che i campi non debbano essere mantenuti, ritengo che però se non ci sono i campi ci devono essere soluzioni abitative alternative. L'unica se radere, mi ricordo una canzone di Grignani sulle aiole, rado l'aiola, che in quel caso era un'altra cosa, era secondo un'altra me. Cosa, sì, era un'altra cosa, era signor Grignani. Lui cantava. Allora, però ragazzi, qui è abbastanza chiara la cosa. Molto no? Grave, molto grave. Ma non è grave per niente, è normale. Brutto, grave, è normale. Violento. L'unica da alternativa procura, da procura ma, della Repubblica. Ma sì, pure questo da procura. Sì, no, allora, pure l'unica, questo, l'unica questo, cosa gravissimo. Chiara. No, scusami, l'unica cosa chiara di questa vicenda, l'unica cosa chiara è che l'unica possibilità di soluzione abitativa, come dice la Boldrini, è quella di, come dico io sempre, bussare pronto pronto, buongiorno, agenzia immobiliare? Sono un signore, non sono rom, mi chiamo Giovanni, eccetera. E posso affittare una casa? Che casa avete nelle zone? Ma che non ne so, è questo il tema. Ma non è questo. Salvini ha governato Milano per 20 anni, la Lega, per 20 anni. Non hanno raso al suolo una beneamata fava. Va bene, è solo, va bene, no, d'accordo, nulla, è solo propaganda preelettorale. Propaganda, non si può radere al suolo nulla, non radi al suolo niente. No, si può, come niente, non si può, basta volerlo. E le persone che sono lì cosa fai? Le ammazzi, ma cosa che fai? Tolgono tutto. Tolgono tutto o diventano Ma non è un albero. No. Non sradi, che allora, sono persone. O diventi nomade o fai il nomade o fai il nomade oppure affitti una casa come vanno tutto. Vanno trovate soluzioni abitative per queste persone. Ma le soluzioni abitative per tutti vanno trovate. Come hanno fatto a Venezia, come ha fatto Cacciari che ha costruito un piccolo villaggetto a Roma, Roma a Roma, i Roma a spese nostre, Roma a Roma. Sì, certo. Sì, davvero, siamo noi rubiamo sulla metro. Così dire così, senza vergognare. Sì, perché ci dobbiamo vergognare, scusa? Perché secondo voi rubare è una cosa bella? Sì, per noi sì. Perché? Perché noi tutta la vita lavoriamo queste cose. Siete rom, siete? Bosnia. Sì, siamo da Bosnia, però viviamo qui a Roma. Quindi vi hanno insegnato proprio fin da piccola a rubare? Sì. Siamo insegnati da sole. Avete paura che i poliziotti poi vi arrestino? Sì, ci arrestano, ci mandano via di nuovo. E noi ci andiamo giù, andiamo a rubare, ecco. E i poliziotti vi hanno mai fermato? Vi è mai capitato che vi hanno preso? Sì, tante volte. Che fanno? Vi individuano, no? I nomi, i cognomi? Ci prendono, ci portano alla questura, ci fanno le foto, impronti, ste cose, se c***o ce lasciano. E poi vi rilasciano? Sì, perché poi continuate a rubare? Sì. Non vi dispiace però per chi posso viene? Posso sapere che su quale canale, scusa? Guarda che metto l'occhiale così sono più sexy. Non vi dispiace se poi, non so, la vecchietta rubate qualcosa e lei rimane senza soldi? Ma non mi frega, dopo muore. Così è la vita. Certo. E te non dispiace se magari... Ma non mi dispiace, guarda, sto bene io, mi prendo i soldi e sto a posto. Voci dal mondo rom. Ma parlano pure romano. Voci questi. Dal mondo rom. Gli prendiamo i soldi. Ma scusa, tu ma dici ti che rendi era conto? Tutto falso, dici? Ma no, tutto vero, però è talmente capito, vero. Ma sarà vero o no? È ma vero no, è o no? È vero, ma dico, parlano no? Romano perché ormai sono qui a gli prendiamo i soldi. Ma sì, ma vanno questi. Fermi tutti. In collegamento. Ma poi dove lo trovi tu un criminale? In collegamento che lo dice? Con Albettone Gio Formaggio. Ah, ah già. Caro Gio, caro Gio. Ciao. Come andiamo? Tutto bene, ciao. Allora, ma è un nome di battaglia, Gio Formaggio. Ti ho visto, caro Gio, ti ho visto oggi con il tuo fucile ripreso, un fucile, voglio sapere tutto su quel fucile nero, un fucile enorme ti ho visto sul tavolo. Poi guarda che rischio che mi ritirino il porto d'armi. Perché? Speriamo. Perché rischi? Non ho capito. Ma no, perché l'ultima volta che ho dichiarato alla Zanzara che sparo ad altezza uomo, volevano ritirarmi il porto d'armi. Beh, amico mio, spari se vedi qualcuno. Spari se vedi qualcuno che ti minaccia. Non è che spari così alla cazzo di cane. No, gliel'hai spiegato ai signori? Gliel'ho detto. Chi minaccia a me e la mia famiglia e viene di notte a rompere le palle, sparo. Io gli sparo. Punto. E allora questo si può dire. Scusi, signor Formaggio, però. Formaggio è un nome di battaglia, immagino. Formaggio è il suo. No, Gio Formaggio, sì. Ma è il vero ma come nome? Si chiama veramente? Si chiamerà è il vero Franco. Nome. Ma Gio, anche Gio è vero. Scusate, chi è che mi ha chiesto se mi chiamo Gio Formaggio? Parenzo. No. No, non ho capito, Gio, ma il tuo vero nome qual è? Formaggio è il cognome, d'accordo, è vero. Formaggio è il cognome. J-O-E è il nome. Sì, ma è vero. È un nome americano, no? Ma perché ti hanno dato sto nome americano? È incredibile. Perché guardavano Furia Cavallo del West e hanno sbagliato, invece di scrivere Joy, mi hanno chiamato Joe. Ma e ora io ho chiamato mio figlio Joy. Ma veramente, stai dicendo sul serio o no? Sì. Che ti hanno chiamato Joe? Sto dicendo sul serio, non cioè, dico tu mai così io. Sulla carta d'identità c'è scritto Joe all'americana, ma sembri il film dei sordi, sembra. Come si chiama? Un americano a Roma, una cosa incredibile. Fermi tu. Joe di Maggio, no? Joe di Maggio. Ma perché io sono Joe Formaggio. Ma perché ti hanno chiamato Joe? Spiegami. Ti ho detto, allora, Furia Cavallo del West, c'erano i miei fratelli che guardavano il film e c'era quello che correva, che cavalcava Furia, si chiamava Joy. Sì. Mio papà ha sbagliato in comune, ha messo J-O-E senza la Y e mi sono chiamato Joe. Io a distanza di 30 anni ho messo nome a mio figlio Joy. Sbagliando più. Torniamo tra un attimo, traffica. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono... una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. comportatevi bene. Allora, abbiamo in collegamento dal Bettone il sindaco Joe Formaggio, che ci ha spiegato l'origine del nome Joe. Allora, caro Joe, ti sei fatto riprendere oggi, ho visto delle immagini con questo enorme fucile sul tavolo, no? Ma che fucile è? Spiegami, Joe, non ho capito. È un fucile a pompa. Un fucile a pompa. Questo è usato per caccia, sì? Per tiro sportivo e per legittima difesa. Per legittima difesa. Ma un fucile a pompa, quanti proiettili spara sto fucile? 9 colpi. 9 colpi, cioè se becchi qualcuno che succede? Lo spappoli praticamente. Dipende con cosa lo carichi, no? E tu come... Allora, pallini piccoli, palloni grossi. Sì. Dipende con cosa lo carichi. Dipende. Se lo carichi con palloni grossi... Fai del male. Fai del male, cioè puoi spappolare una persona. Sì. Ah, cosa pazzesca. Ma Parenzo, l'hai visto sto fucile? È una cosa enorme. Ma l'ho visto, e come? Ce l'ho qua davanti, è una cosa inquietante. Ma che perché un sindaco inquietante? Si faccia fotografare con un fucile e poi faccia pure l'ordinanza anti-rom col fucile. No, adesso veniamo ai rom. Che ha della vergogna proprio. Io non, no, so, ma ride. Ma io non devo ride. Vergognarmi di niente. Ma perché non si ride? Facciamo una fonduta col tuo cognome, amico mio. Non li vuole, non li vuole nel tuo comune. Cioè vuoi un comune nomadi free, diciamo. Denomadizzato, sai che c'è denuclearizzato? Esatto. Il mio comune è denomadizzato. Questo è il... Ma come si fa a dire? Come dire estirpare? Allora, ascolta, io sono stato eletto. Fai parlare Joe. Allora, io prego, sono stato eletto nel mio comune con il 100% dei voti. Beh, questo cosa c'entra? Questo è un po' quindi inquietante. Rappresento tutta la cittadinanza. Ma sì, io non verrò mai lì a tutta la... Chi se ne frega? Ma, allora, ma non verrò mai. Nessuno ti ha invitato. Ma non vengo neanche io. Ma chi se ne frega? Non abbiamo invitato neanche i rom. Noi abbiamo una pista da motocross che è mondiale. Anzi, io verrò lì con un gruppo di rom. Aspetta, dico io. Da qui a giugno vengo con un gruppo di rom della Zanzara, vengo lì da qui a giugno, da qui te lo giuro, e da noi qui ti aspettiamo col fucile io, in mano, e io da qui alla fine della trasmissione della Zanzara giuro che vengo da qui a luglio, quando finiamo dal 20 di luglio. Ma dove vai? Verrò ma da dove? Questo cazzo di Albettone con e un noi gruppo di rom, hai capito? Con vengo con i rom, ti faccio vedere cos'è l'invasione rom, vengo con i miei amici che cantano la musica, tutta la musica. Sì, bravo, vengo con tutti i rom, ecco, una ventina, un caravan meraviglioso. Come io ho tanti amici ad Albettone, ti aspetto con i fucili spianati a confine del comune. Perché non puoi entrare, perché c'è l'ordinanza anti-rom, non puoi... C'è l'ordinanza, non puoi entrare? No, ma non ho capito, come funziona? Ti assicuro che entrerò, no. Ti assicuro noi ti aspettiamo. Spiegami, Gio, io non ho capito una cosa, ma concretamente, se arriva un gruppo di rom, come fai a mandarli via? Spiegami. Allora, innanzitutto dopo 10 minuti si chiama polizia, carabinieri e polizia municipale. Sì. Se non vanno via immediatamente vengono caricati sui carri attrezzi e portati nel ricovero degli automezzi più vicino, che può essere Vicenza 90. Cioè e li porti dove? Prendersi le carovane là. Ma perché? Che cosa è proibito? La sosta? Non ho capito, è proibita la sosta nel territorio comune? Non si può sostare per motivi igienico-sanitari. Siccome il primo cittadino... Ma che c'entra i motivi igienico? Perché sono dei sozzoni, dici? Allora, non abbiamo le colonnine per ricevere carovane, sì, e non le metteremo mai su nelle, sì, zone dove vanno i rom, sì, e quindi automaticamente stanno fuori. Stanno fuori dalle palle. Quindi anche non un vogliamo turista che arriva col caravan, un americano bianco, un tedesco ariano bianco, biondo, quelli li quello è ben accetto. Beh, scusa, però è incredibile, però scusa, cioè nel senso tu dici un americano col camper può entrare, sì, perché non sporca. Ascolta, tu dici nella perché pista non... da motocross, sì, nella pista da motocross che facciamo campionati europei, sì, quindi vengono, vabbè, giù bello, 200-300 camper, sì, ogni domenica, sì, io vado là possono venire, però nel resto del paese, sì, non possono stare camper, carovane, baracchini. Soprattutto, sì, nomadi e batteria varia. Non li vogliamo. Batteria varia. Oh, batteria sono varia umani sono. Vabbè, io come, guarda, te come lo li giuro, consideri Rom? Vengo là con i Rom. Te lo giuro che vengo. Come li consideri Rom? Non ho capito, Joe. Ma ascolta, basta che guardi, no, sì, tutti i casi, guardiamo, che sono successi da Stacchio a quello che abbiamo sentito alla Zanzara 2 minuti fa. Sì. Sono, allora, i campi Rom sono covi di delinquenza. Sì. Allora, dobbiamo schedare tutta questa gente qua. Sì. Fare in modo che non delinquino più. E dunque, allora, ma tu, aspetta a me fare. Ma io comunque sono tu non di un piccolo paese. Comunque tu quanti abitanti ha Albettone? 2500 abitanti. Cioè 2500, tu i rom fuori dai coglioni, non ce li vuoi, cioè. Fuori dalle palle, non li vogliamo. Fuori e oggi abbiamo messo sulle tabelle. Io non sapevo neanche che oggi era la giornata nazionale. Vabbè, quello, sai, giornata mondiale, sai, si fa. Però si fa per le tabelle tante cose. Sono arrivate ieri sera e oggi le abbiamo messe sulle. Ma che tabelle? Che vuol dire tabelle? Abbiamo messo le tabelle 1 metro per 50 con scritto divieto di sosta ai nomadi. C'è scritto proprio ai nomadi. Quanti soldi hai speso per fare sta carnevalata? No, 100 euro. 100 euro di carnevalata, buttati. Ma perché via. Di carnevalata? 100 euro di carnevalata. Da qui a però... luglio arriverò con un caravan di rom. Ma non può, con non io, è possibile. Oliviero Toscani e i rom arriveremo lì. Guarda, insieme. Adesso glielo propongo a Oliviero Toscani di venire con me in questo albettone di cui non conoscevo neanche l'esistenza. Per fortuna, fino a oggi. Ma provincia di Vicenza, come no? Grande Veneto, paese libero che decide, Ma scusi, se i rom cercano di forzare, se i rom cercano di entrare per forza e sostare, che succede? Vengono presi io con la forza? Caricano, vengono, io chiamo tutte le forze dell'ordine, loro vengono, caricano le carovane e fuori dalle balle, perché è un'ordinanza. E allora, se resistono, se questi qua resistono, che succede? Li caricano, li mandano via, io non li voglio nel mio comune, se li terrà qualcun altro. Il comune di Vicenza ha un campo nomadi, anzi ne ha 2 o 3, e sono ben attrezzati, andranno nel comune di Vicenza che è governato dal PD. Qua, zero branco, non si passa. Comunque, ma non vogliamo nessuno. Facciamo pure una bella cosa tonda, sai come il comune denuclearizzato? Facciamo comune dei nomi, potrebbe inventarsi una cosa del genere sotto la scritta di detto, ma ci manca solo la tabella comune denomadizzato. Comune denomadizzato. Che porcheria. Ma perché ma se uno può decidere come che fossero, cosa fare nella come vita? Come fosse il nucleare, capito? Come fossero radioattivi. Ma lei come li considera? Un po' una feccia, come ha detto uno della Lega, i rom. Come ma sono? Io li considero che sono un problema. Un problema, sì. È grande, problema, no? Perché qua a 10 km di distanza un nomade ha assaltato una gioielleria e per fortuna c'era Stacchio che l'ha fermato. Un problema da risolvere con le buone un o con problema le... da risolvere con le buone o con le cattive, perché non possiamo più permettere che le nostre case, le nostre botteghe, andare in metropolitana, andare sul mezzo pubblico è diventato proibitivo. Ma perché c'è questa porcheria non c'è qua, noi non la vogliamo Bettone, più siete via, 1005, via, via. Ma via dove? Quale metropolitana che ha il Bettone? Ma scusi, però se si sposta in un altro paese accanto che succede, formaggio? Appunto. Ma allora, io non ho giurisdizione fuori dal mio comune, intanto nel mio comune non si viene. Fine. Ma no, se gli altri comuni, se gli altri comuni vicino, che vengo. No. Scommettiamo se gli altri comuni vengo. Vicino vogliono ospitarli, aiutarli, vogliono dargli qualsiasi cosa, sono fatti loro. Nel mio comune non esiste. Ma lei affitterebbe mai la casa a un rom, a una famiglia rom? Ma siamo impazziti, gli do fuoco piuttosto. Tanto non ti pagheranno mai l'affitto. Gli do fuoco alla casa piuttosto di darla ai rom. Ah, piuttosto di darla a un rom da fuoco. Ti rendi conto, no? Ma sì, ma stiamo scherzando. Ma non ti rendi niente. Conto? Ma tu ti rendi? Bisognerebbe fare la fonduta con questo formaggio. Ma sti qua vivono. Sì. Vivono sulle nostre debolezze. Allora, le leggi italiane sono fatte per metterla nel culo alla gente per bene, no? Sì. E tutelare i disgraziati e i delinquenti. Perché tanto allora, dice, tanto rubano e poi nessuno fa niente. Non gli fanno niente. Continuiamo a depenalizzare i cosi. No, via, dobbiamo essere più severi. Allora, per fortuna c'era Stacchio, sennò cosa succedeva quella sera? Vabbè, quello certo, quello non c'è. Allora, magari non succedeva niente. Va bene, Joe, ti abbraccio, a presto, mi raccomando. Ciao. Tieni duro, tieni duro. Ce l'abbiamo duro qua. Ce l'hai duro pure te. Ammazza. Ciao. Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, volevo dire a te, ma tu sei Dio per giudicare? Ma tu che cosa comunichi con la tua trasmissione? Semplicemente grazie alla Zanzara e a Radio 24 che mi ha dato la possibilità di passarti questo messaggio. Non sei Dio e tante volte sei un po' un coglione. voi che ci fate con tutti questi soldi? Andiamo a comprarci i vestiti con i nostri ragazzi, andiamo nel cinema, andiamo a divertirci, facciamo ste cose, fumiamo un po' di erba. E quanti anni hai? Io 15. Tu? 13. Pensate che sia troppo facile avere soldi così? No, mettiamo soltanto la borsa così e andiamo a rubare. Voci dal mondo rom. Non sarebbe meglio che voi andaste a scuola e poi uscite da scuola iniziaste a lavorare come fanno tutti? Troppo difficile. Un mese 1.000 euro, ma io in un giorno faccio 1.000 euro, scusa. Quindi non ti conviene, no? Quindi sto meglio a rubare. A rubare, scusa. Invece vorremmo fare, caro Parenzo, un applauso, noi della Zanzara, un applauso virtuale al presidente della Roma, della società di calcio Roma, Pallotta, americano, il quale ha detto chiaramente cosa pensa dei suoi tifosi, quelli che hanno esposto quello striscione vergognoso nei confronti della madre del ragazzo napoletano morto circa un anno fa durante la finale di Coppa Italia all'Olimpico. È una parola inglese, sono parole in inglese quelle che usa naturalmente il presidente della Roma, però mi sembrano molto chiare. Fucking idiots. It's just not fair for all of our fans to be tarnished by a few fucking idiots and assholes that hang out in the curve of Sud. Yeah. In realtà non sono pochi, quei fucking idiots and assholes. Assholes, che vuol dire? Coglioni, no? Che vuol dire? Coglioni. Sì, praticamente. Penso questo, di sì. Questo ne è il senso. Fucking idiots and assholes. Beh, stupendo, l'ho trovato. Applauso, applauso per Pallotta, applauso. Sì. Applauso per Pallotta. Quando ci vocevo, Ancora la vicenda Diaz. Ancora la vicenda Diaz. La vicenda Diaz. Casarini Santanchè questa mattina, grande battaglia, dice no, la colpa è sempre di quelli che spasciano le città. Te l'ho detto, ci saranno sempre due sì, fazioni da questo punto di vista. Oggi, comunque Casarini Santanchè, Casarini Luca Casarini era a Genova nel 2001 eccetera eccetera. Non si va a una manifestazione internazionale esiste, con la volontà di distruggere una città. Esiste una costituzione. Di incendiare i cassonetti, esistono, di spaccare le vetrine, guarda, di cercare ascolti, di annientare chi la pensa in maniera vetrine, diversa e che sta portando lei si avanti ricordi, l'orgoglio e l'appartenenza Santanchè, di una parte. Una alla mi volta, scusi, Casarini finisca, le sentirà anche cacciare. Le vetrine non sono vite umane. Innanzitutto dica questo. Si spaccano, le vetrine quindi? Non sono vite umane. Si spaccano. E o sono uguali o sono uguali. Vite umane. Ha capito? Imparate, voglio dire, ha capito? Innanzitutto, ma questo in ogni caso, ma cosa c'entra? Noi dobbiamo decidere se stiamo. Allora, ragazzi, oggi il Partito Democratico si è accorto che c'è De Gennaro, l'ex capo della polizia al tempo del G8 di Genova, che è il presidente di Finmeccanica. Sì, oggi se ne accorge. Il signor Orfini, che però aveva pubblicato pare dei tweet precedenti sullo stesso De Gennaro, per carità, però oggi è il presidente del partito e dice è una vergogna il fatto che De Gennaro sia a capo di Finmeccanica oggi. Io dico che era una vergogna anche prima che qualcuno decidesse che c'è stata la tortura alla Diaz, cioè uno che era il capo della polizia, anche se è stato assolto da tutte le accuse, era il responsabile all'epoca insieme ai vertici della polizia, ai vertici che era lui poi, ai vertici politici dell'ordine pubblico a Genova. Ma chi l'ha messo se a capo di Finmeccanica? Se qualcosa, la politica. Letta. La e politica. Poi successivamente è stato confermato da Renzi. Ora Orfini, che è renziano, del presidente del partito, non si può svegliare oggi. Oppure va bene dire che è una vergogna, però chiami Renzi e gli dica fallo dimettere, no, costringere alle dimissioni da Finmeccanica. Cioè non basta l'indignazione per De Gennaro. Se uno vuole le dimissioni di De Gennaro, secondo me dovrebbe dimettersi, ma doveva dimettersi anche prima, non doveva diventare capo di Finmeccanica. Uno che ha avuto una responsabilità diretta in una vicenda gravissima come quella di Genova, come capo della polizia, dove sono state commesse sicuramente delle storture. Io sono d'accordo con chi scrive oggi che la responsabilità di quella vicenda è interamente di chi voleva devastare la città. Però posta questa responsabilità, accertata questa responsabilità, ci sono responsabilità precise da parte di poliziotti che hanno commesso degli orrori, come è evidente, la macelleria messicana, eccetera, eccetera. Quelli là vanno puniti? Ma il capo della polizia che non ha saputo tenere l'ordine pubblico a Genova in quei giorni si chiama De Gennaro ed è una vergogna che sia capo di Finmeccanica, non c'è dubbio. Ma questi qua se ne accorgono solo ora? Se ne accorgono solo adesso che un tribunale a Strasburgo ha deciso che ci sono stati episodi di tortura? È ipocrita, o no? Certo che sì. Dai, su. Sempre in ritardo, capito? Sempre in ritardo, sempre dopo. Quando Strasburgo decide che è tortura, è una vergogna del Gennaro. Ma perché non l'hai detto prima, allora? Effettivamente Orfini l'ha detto prima, no, in alcune soprattutto occasioni. Perché l'hai nominato a Finmeccanica, visto che oppure la nomina è senza politica. Dire vergogna. Questa è la contraddizione. Oppure senza di nuovo, Orfini non l'ha nominato lui. Però senza dire vergogna, fai una perché è facile dire vergogna, no? Si ottiene consenso da parte del tuo, come dire, da parte del, certo, tuo elettorato. Chiami Renzi e dici: guarda, secondo me sarebbe il caso, sono il presidente, sarebbe il caso di farlo, di mandarlo a carcere nel sedere via da Finmeccanica, no? And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Sentenza di Enzo Orfini, presidente PD, vergogna, l'ex capo della polizia di De Gennaro ai vertici di Finmeccanica. Domani alla Camera la legge sulla tortura. Un altro afroamericano ucciso da un poliziotto negli Stati Uniti. Non minacciava nessuno, cercava solo di scappare, 8 colpi alle spalle. Domani l'incontro Renzi-Sindaci sul documento di economia e finanza, la Bosca e la minoranza PD, Italicum, nessuna modifica, funziona così. La campagna elettorale di Salvini, campi rom, li raderei al suolo, commenti shock sul web, Boldrini, parole inquietanti, il Vaticano, frasi assurde e stupide. L'Italia nel rapporto alla Guardia di Finanza, 8.000 evasori totali, un appalto su 3 irregolari, frodi e sprechi per oltre 4 miliardi. Tsipras a Mosca, forse aiuti in cambio del sostegno alle richieste russe sulle sanzioni. Putin, la Grecia non è il nostro cavallo di Troia con l'Europa. Spaventose atrocità nel campo profughi palestinese di Yarmouk a Damasco, sotto l'attacco dell'ISIS, centinaia di morti, oltre 3.000 bambini in pericolo. Andiamo con Andrea da Rimini. Andrea, vai. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Allora, salve, io volevo dire che Salvini comunque aveva ragione dicendo che voleva buttare giù tutti i campi rom, fondamentalmente. Dunque Salvini perché ha ragione, ci hai chiamato per dire che Salvini ha ragione? No, volevo fare un esempio dicendo che comunque io vengo giù da Napoli. Sì, vieni giù, che vuol dire? Vieni da Napoli. Sì, vengo da Napoli. Sì. E allora? E c'era a fianco casa mia, c'era un campo rom. Sì, e allora? Vivendo lì vicino era diventato una discarica. Vabbè, totalmente. Ma non mi sembra macchine tagliate, macchine, sì, rubate. Sì. Era impossibile. Una volta c'era un laghetto lì vicino. Sì. Mi ricordo che ci fu un'alluvione e tutti i pesci andavano fuori nel terreno. Noi ragazzini andammo a raccoglierli. E partino degli spari dal campo rom addosso a noi ragazzini, avevamo 12-11 anni. Vabbè, Andrea, ci stai raccontando episodi di vita accanto a un campo rom, ce ne sono tantissimi di questi episodi, ma io sì, lo dico da tempo che i campi rom sono un abominio, ma lo sono un abominio per le stesse persone che ci vivono dentro, cioè non solo per chi ci vive intorno, secondo me anche per chi ci vive dentro. Poi può darsi pure che la maggior parte delle persone che stanno là dentro piace vivere là, però, in quel casino, senza legalità e tutto. Ho capito, quella spazzatura, quelle macchine tagliate, sì, non gliele portavo mica io, non gliele portava mica mio padre, cioè, no, ma erano loro, certo, che prendevano. Sì, siamo d'accordo. Stefano da Padova, Stefano. Buonasera, sono Stefano da Padova. Dimmi. Allora, volevo dire una cosa, volevo chiedere alla direzione artistica della vostra trasmissione. La direzione artistica di che cosa, scusa? Sì, ce l'avete di sicuro, un art director o qualche cosa. Ma guardi, si sbaglia di grosso. No, aspetta un attimo, Cruciani, guardi, vi ascolto da anni, vi adoro, sono un vostro fan. Non è la prima volta che entro in trasmissione e questo sono problemi vostri. Ma veramente vi voglio bene. Ma detto ottimo questo, sì. Sì, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani la miro perché... io mi ricordo, sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca, per cui mi sono fatto carico. Hai di capito. Ma gourmet della gnocca. Della vabbè, ma comunque questo qua non fa parte della. Sì, fa parte del mio carattere. No, io ho una simpatia per lei. Io, vabbè, allora che vuole dire? Non ho capito. Ecco. Allora, io volevo chiedere alla vostra, se era possibile cambiare il nome della trasmissione la zanzara, sì, con lo scroto. Lo scroto, sì, lo scroto. Lo scroto. Beh, diciamo, prendiamo in considerazione questa sua proposta. Sì. Ma con benevolenza, sia ma, chiaro, ma come certo, mai vuole intitolarla? Vuole lo cambiare? Scroto. Ma lo senta scroto. Anche come su- se- lo scroto. Perché a volte sì, lo scroto, che è noto contenitore dei sì, coglioni, come sì, sempre, certo. Ah, perché lei dice volte, siamo due coglioni, no? Siamo due coglioni. In questo senso, siamo benvenuto due a chi sta nel mezzo, cioè a lei. Benvenuto a chi sta nel mezzo. Perché lo devi insultare? Lei che ha benvenuto fatto a chi sta lei che nel ha fatto mezzo. Studi universitari. Capito? Sicuramente l'anatomia la conosce, sì, ma non è questo, esatto, il problema. Esatto, infatti benvenuto a lei che sta nel mezzo, diciamo. Bravo. Ah, che carissimo, lei è una simpatica. Le battute qua mi entrano dall'orecchio, ma fuori dall'altra. Però scusa Stefano, tu hai perso del tempo sì, a telefonare, a fare eccetera. Sì. No, non ho perso. Comunicarci questa ma roba. Ma io mi spiego anche perché. Perché? Lo spiego dimmi, perché dimmi, dico questo, ma è molto semplice. Perché due figure sociali che sono gli omosessuali e gli swinger, sì, che sono sempre state figure molto marginali, degne di rispetto e tutto quanto, voi due l'avete fatto diventare due persone estremamente antipatiche e sgradevoli. Chi sarebbero? Perché a tutti, no, perché volete fare con discorsi tirati anche in maniera a volte anche veramente ai limiti dell'inverosimile. E mi rivolgo specialmente al vabbè, Parenzo. Dai, forza, vai al sodo. Dunque? No, ecco praticamente il discorso dello scroto è perché a volte queste figure, sì, voi due, avete fatto diventare odiose due figure che fino la maggior parte della gente normale, come sì, io sono, e come siete anche voi, la maggior parte dei vostri ascoltatori, non era proprio il caso. Vabbè. Perché battete il chiodo sempre su quelle cose, martellate le palle sempre con queste prese di posizione estreme. No, un scusi, attimo, ma un attimo, un cavolo, sono le 19:29 e c'è la borsa. Abbia pazienza, Stefano, calma. Brucida. Fatti guidare da chi conosce la strada. UBI Pramerica, da sempre al servizio dei tuoi investimenti. Vi presenta Zanzara. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. It was a beautiful day. Sun beat down. I had the radio on. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? La zanzara di oggi è iniziata con Joe Formaggio, sindaco di Albettone, provincia di Vicenza, il quale ha fatto un provvedimento antinomadi, non possono entrare, non possono sostare nel suo comune, il sindaco con un fucile a pompa, con grandi o piccoli pallettoni, ha detto: se Parenzo prova a entrare con i nomadi nel mio paese lo affronto col fucile. Beh, io non ti consiglio di andare, non ti consiglio. Io da qui alla chiusura della zanzara a luglio andrò con un caravan di rom lì, sì, e vediamo come va a finire. È una promessa. Joe Formaggio, Joe Cheese, che ha detto che piuttosto di affittare una casa a un rom, dà fuoco alla... io avevo capito dà fuoco a rom, però poi ha detto dà fuoco alla casa. Ma lei affitterebbe mai la casa a un rom, a una famiglia rom? Ma siamo impazziti? Gli do fuoco piuttosto. Tanto non ti pagheranno mai l'affitto. Gli do fuoco alla casa piuttosto di darla ai rom. Giustamente abbiamo precisato, no? Beh, abbiamo sì, precisato. Già è folle. Tabelloni col divieto di sosta. Io l'ho visto questi tabelloni col divieto di sosta dei nomadi. Sono praticamente un divieto di sosta. Ho scritto no nomadi. Così c'è scritto: no nomadi. Ci sono le foto ovunque. Abbiamo messo le tabelle 1 metro per 50. Ho scritto divieto di sosta ai nomadi. La cosa più bella è però il comune denomadizzato. Porcheria. Joe Formaggio, number one. Cioè vuoi un comune nomadi free, diciamo. È denomadizzato. Sai che c'è denuclearizzato? Esatto. Il mio comune è denomadizzato. Ma lo sai perché mi piacciono questi personaggi, caro Parenzo? Perché ci fanno sembrare un po' simili all'America. Cioè sono personaggi che ci avvicinano al mondo americano. Sono sempre esistiti, ma non venivano fuori. Non venivano fuori. In America ce ne sono. Se la zanzara fosse negli Stati Uniti, io voglio fare due puntate a New York. Bellissimo. Voglio fare due puntate da solo, da solo. Due puntate a New York. E io dove sto? Come si chiama il paese? A Roma, che cazzo ne so. Netto, come si chiama il paese? Ma vai a Roma in redazione. Ma col cavolo. Voglio fare una settimana intera a New York. A New York, in diretta, con personaggi incredibili, italiani, pazzi scatenati. Ma si può fare che io ci vado, non tu, ci vado io. Ma dove vai adesso? Ma dove vai? Fuori dalle palle. Solo formaggio. Formaggio di sé. Non abbiamo le colonnine per ricevere carovane e non le metteremo mai su nelle zone dove vanno i Rom e quindi automaticamente stanno fuori dalle palle. Quindi anche un turista che arriva col caravan, un americano bianco, un tedesco ariano bianco, biondo, quello è ben accetto. Ecco, qui c'è una cosa, quelli sono ben accetti. Walter da Firenze, vai Walter. Ascolta, Cruciani. Dimmi, leva il viva voce, sennò ti strozzo con le mie mani. No, ma sono in macchina col Bluetooth. Ma a me che cazzo me ne frega che tu sei in macchina col Bluetooth, amico mio. Va bene, ti adoro, ti abbraccio fortissimo. Mi sei simpatico, ascolti la zanzara, va bene, però non posso Bluetooth. Fermati un secondo. Capito, si ammazzasse pure, che devo fare? Walter, dimmi. Mi senti? Sì, vai, forza. Dobbiamo sopportare. No, vi siete scagliati con Di Gennaro. Sembra sia un criminale. No, io non ho detto che è un criminale. Dico che hanno fatto troppo poco, hanno fatto. Vabbè, se tu pensi che hanno fatto troppo poco, va bene, ma siccome ci sono delle sentenze della magistratura e poi un'evidente, come dire, incapacità di gestire. La magistratura, ho capito che la magistratura sta facendo tanto, la magistratura. Secondo te hanno fatto troppo poco, cioè dovevano picchiare più certamente, forte. Certamente, guarda. Cioè che cosa intanto dovevano fare? Che cominciassero a levare il casco quei quattro delinquenti che c'erano in piazza. Ma io sono dalla parte tua al 100%, cioè sono a spada. Grazie Cruciani, ti voglio bene, ma io non a quell'altro che sei a fianco. Sì, però amico ma mio. Ma cosa diceva? Somaro d'un somaro. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, di un gruppo di poliziotti che sono entrati alla Diaz e hanno fatto con metodi discutibili e condannabili, ma e condannati, cosa carne fatto? Di aspetta. Ma cosa vuoi che abbiano fatto a ceffoni e a manganellate? Ho capito, cosa però vuoi che abbiano fatto stato di diritto poco? In troppo stile poco, coreano troppo questo qua. Poco. Walter vada da Firenze Corea, dice troppo poco. Ma Walter, allora, ma io Walter dico, vada in Corea. Caro Walter, in Cile vada. Sicuramente i responsabili di quelle giornate, a mio parere, i primi responsabili di quelle giornate sono i criminali che sono venuti a Genova al solo scopo Bravo. Di distruggere la città. Ma su questo non ci sono dubbi. Però, amico mio, succede una cosa molto semplice, che non è che quando i soldati oggi Cacciari ha fatto un esempio molto chiaro, quando i soldati americani vanno in Iraq e alcuni di questi soldati si comportano male, pestano uno e non lo devono pestare, eccetera, poi vengono puniti. La stessa cosa dovrebbe succedere in Italia, punto e basta. Cioè, molto semplice. O no, o non sei d'accordo nemmeno su questo? Non sono, allora, se ci sono delle cattiverie, perché le cattiverie non vanno punite, per carità. Io posso dirti che ho 55 anni. Abusi sono stati commessi. Io facevo ordine pubblico con i carabinieri. E ho fatto ordine pubblico nelle manifestazioni con gli autonomi. So cosa vuol dire trovarsi in quelle condizioni. Sì, ma in quel caso sono entrati dentro una abusi, una sono stati commessi degli abusi. È diverso, salame di un salame. Calma, non durante una manifestazione, che pure ne sono successe di tutti i colori, ma sono entrati dentro una scuola, capisce, e hanno picchiato delle persone. Ma va benissimo, uno può pensare pure a un'operazione di ordine pubblico. Dopodiché l'operazione di ordine pubblico per scovare dei pericolosi terroristi forse va gestita in un altro modo. Esatto. Io per questo ho detto che il signor De Gennaro, che comunque nel complesso quelle giornate lì sono state gestite male dal punto di vista dell'ordine pubblico. Questo lo possiamo ammettere o no, Walter? All'inverosimile. Eh? I media, la magistratura hanno fatto lievitare questa cosa all'inverosimile. Cioè guarda. In che senso la magistratura? Solo in Italia succedono queste cose. Cioè in altri Io vorrei fosse successa in qualsiasi paese europeo. Non diciamo tu dici America, non se la prendevano con i poliziotti come ce la siamo presa noi, questo vuoi Bravo, dire? Bravo, bravissimo. Va bene, hai azzeccato il problema. Ciao Basta. Walter, ciao. Ciao, ciao a tutti e due, ciao. Beh, abbiamo con noi, caro Parenzo, uno dei personaggi di queste settimane, di questi giorni, un esponente politico di Forza Italia che si chiama Silvia Sardone, segretaria di Forza Italia a Sesto San Giovanni e anche consigliera in una zona, che è la zona 2 a Milano. Uno potrebbe dire, ma perché invitiamo una persona, diciamo, che non ha dei ruoli di alto livello dentro Forza Italia? Perché è stata definita da tutti, invitata in varie trasmissioni, come la rottamatrice di Forza Italia, cioè quella che vuole liberarsi della classe dirigente attuale, di una parte della classe dirigente attuale di Forza Italia. È una ragazza molto spigliata, molto brava, in televisione, combatte, si resiste anche alle cose che gli dicono, no, i vecchi di Forza Italia, che sono delle cose tremende, caro Parenzo. Dinosauri, brontosauri. Famosi dinosauri di Forza Italia. Silvia Sardone, buonasera, buonasera. Buonasera. Come stai? Come stai innanzitutto? Abbastanza bene, abbastanza bene. Entri subito in confidenza col nemico, bravo. No, bravo. Che confidenza col nemico? Dai. Guarda, Parenzo, ho votato più volte io Forza Italia, io ho votato un sacco di cose. Tu non hai mai votato Forza Italia. Io almeno qualche volta l'ho votato, qui in teoria il nemico sei tu, per sto scherzando. Allora, dai. Un comunista. Brava, subito. Diciamolo subito, cara Silvia. Parenzo è un comunista. Diciamo, ha la mentalità. Tanto lo rivendica pure, cioè rivendica. No, comunista no. Lo rivendica solo per caso. Non lo sono stato anche per ragioni anagrafiche, comunista, quindi. Vabbè, io voglio capire una cosa. Fioccano le critiche anche da parte delle donne per quello che dice in televisione, cara Silvia. Leggo, per esempio, la signora Comi dice che non bisogna fare troppo casino, non bisogna criticare, non bisogna fare gli sfasciacarrozzi o cose di questo tipo. Perfino la signora Ronzulli, in un'intervista, dice: non vorrei dare troppa importanza a quella, appunto, nemmeno ti nomina, che, perché secondo lei cerchi visibilità. Come rispondiamo a signora Ronzulli, per esempio, la signora Comi? Ma dunque, innanzitutto, secondo me qualche zavorra nel partito ce l'abbiamo, vogliamo dirlo che ce l'abbiamo qualche zavorra. Chi sarebbero le zavorre? Beh, guarda, ci sono qualche parlamentare che è lì da più di 20 anni, insomma, cioè basta andare a vedere, era uscito un bel articolo, se non sbaglio, sul Corriere, dove c'erano un bel po' di parlamentari. Adesso non è che tutti sono proprio così necessari, tutti i partiti hanno fatto il rinnovamento, noi non lo facciamo, poi se qualcuno è contrario al rinnovamento va bene, ma secondo te Zavorra, Gasparri, Zavorra. Quando è nato Forza Italia nel 94, se vi ricordate, era contro i mestieranti della politica. Sì. Beh, lo è diventato, perché nel senso siamo partiti bene, abbiamo poi razzolato male. E tutto questo. Cioè, capito, no, ma d'accordo, tu dici che bisogna fare un rinnovamento, dunque dare più spazio ai giovani, ai nuove leve. L'hanno fatto tutti. È sempre... No, ma mi stupisco anche che ci sia qualcuno che non lo capisce. Voglia. Ma mettetemi nei miei panni, voglio dire, io faccio politica sul territorio, vivo in periferia, ho sempre denunciato le questioni delle periferie, del degrado, della sicurezza, eccetera, eccetera, ma vorrò che il mio partito comunque sia sul territorio e anche che abbia delle prospettive o no? E secondo voi può avere delle prospettive nelle condizioni odierne? Secondo me no. Allora, però, cara Silvia, uno deve anche essere più, tu dici rinnovamento, però lo dicono tutti rinnovamento, bisogna liberarsi delle zavorre. Ora, dicono tutti, insomma, se l'avessero detto davvero tutti. No, lo dicono tutti in politica. Quando uno dice no, che cosa bisogna fare in politica, bisogna rinnovare. Ma il mio partito non c'è tanto coraggio nel dirlo. Allora, ma secondo te bisogna fare un mettere un limite a chi ha i mandati, cioè dopo 3 mandati basta. Dai una cosa. Perché no? 3 mandati. No? 3 mandati e basta, diciamo. Che ne so, perché no? Guarda, se fosse per noi si potrebbe pure abbassare. Comunque, 2 mandati, diciamo 2. No, ma va benissimo. Guarda, la Rossi diceva 3 mandati. Va bene, io salverei solo quelli esattamente, come posso dire, quelli che danno veramente un valore aggiunto. Vabbè, ma quello chi lo decide? Come per esempio che Martino. Vabbè, che uno come Martino, che fai? Non lo sa. Ho capito, quello però è il tuo parere personale. Martino. È dal 94 che fa. È il tuo parere personale, però quello ha fatto 7 legislature. No, non so, però è autorevole, ha ragione. Ma anche la Sardone. Il Partito Democratico ha la clausola di salvaguardia, eh? Ah, tu dici facciamo 3 mandati, però con le deroghe. È uguale agli altri, allora. Vabbè, ma le deroghe minime, ma uguale agli altri, ma del mio partito. Ma tu chi è? La Zavorra? Io che sono consigliere di zona, no? Sono andata ovunque perché dico questa roba che, appunto, come dite voi, cioè è una cosa abbastanza scontata, che è abbastanza una scontata, banalità, sì. Giusto? Abbastanza una banalità, pensate un po' che lo vado a dire io e questa roba crea un mega putiferio. Brava, sì, brava. Cioè, crea un mega putiferio. La compagna Sardone, brava. No? E quello è il paradosso. Mi piace, guarda, brava. Sono d'accordo con voi, è una banalità. Perfetto, mi spiegate com'è che io, che sono consigliere in zona, dico questa banalità e, sì, e si crea la catastrofe? Perché te lo dico io perché. Perché tu vai in televisione, ti invitano in televisione a dire queste cose in un momento in cui il partito, diciamo, la verità, è un po' una guerra tra bande, e sai dire le cose bene, sei spigliato, eccetera, dunque fai paura a quelli che vogliono mantenere la cadrega, la poltrona, diciamo la verità, questo è il punto, no? E ce ne faremo una ragione. Ma la Zavorra chi sono? Adesso però tu non puoi non fare mai nome e cognome. Diciamo il nome di Zavorra, sennò altrimenti cominciamo. Ma mi hanno attaccato, si sono autodefiniti. Gasparri, una Zavorra. Romani. No, allora, giusto per capire, no? Adesso vi faccio tutti i nomi. Ma se io vado in televisione, io non ho creato io la polemica, giusto per intendere. Beh, senso, non è che sei andata a leggere. Io ero semplicemente in televisione. Qualcuno, sì, come Romani, mi ha attaccata. Sì. Dopodiché anche Gasparri ha fatto ritweet, ma io non l'avevo mica citati. È come se, per dire, non so, io ho due bambini, uno dei due mangia il budino di nascosto e esce fuori, io manco lo sgamo e dice: io non ho mangiato, mamma, il budino. E vabbè, ti sei autodichiarato. Cioè, non so, io non sono stato io a mangiare il budino. Buona questa. Si sono autodefiniti Zavorra, tu dici, no? Voglio dire, io non ho fatto niente, si sono autodichiarati tutti. Vabbè, allora Gasparri e Zavorra, sì. In ordine alfabetico andiamo. Gasparri e Zavorra, no. Guardate, in ordine alfabetico, prendete quell'elenco del Corriere della Sera. Guardane un po', poi voglio dire, ma a parte che abbiamo anche nomi veramente, cioè tipo Razzi, ma voi l'avete visto il video della canzone di Razzi? Io l'ho creato, cioè, a me lo dice. Io quando pensavo portavoce che... Cruciani, praticamente. Praticamente no, così. Però, cioè, detto, capisci, no, che se io sono consigliere di zona, certo, e quello è parlamentare, sì, bravo, c'è bravo, qualcosa che non funziona. No, però quella ha ragione della Sardone, guarda, senza ironia. Cioè, a te Razzi ti fa vergognare? Assolutamente sì. Cioè, quando vai in televisione, Razzi, ti vergogni? Di più. Di più, cioè ti vorresti sotterrare quando c'è Razzi. Vorrei rintanarmi sotto la copertina. No, però e scusa, quando questo... va la Sant'Anchè? Razzi, c'ha un sacco di consensi, Razzi. Cioè, prende i voti. Guarda, i voti li prende uno solo ed è Silvio Berlusconi. Poi guarda. Beh, guarda che Razzi ne... vedo così fondamentali. Guarda che Razzi, per motivi vari che riguardano, sì, Crozza, che riguardano in parte anche noi, eccetera, eccetera, prende voti, ma voti reali, secondo me ne prenderebbe più di te. In fin dei conti, Razzi è stato eletto due volte. Tu. Uno può dire: Silvia Sardone, consigliere di zona 2 a Milano, segretario di Forza Italia a San Giovanni, come si permette di parlare di uno che è stato eletto due volte in Parlamento, poi sì, è stato nominato. È tutta colpa di Pietro per Razzi, guarda. Tutta colpa di Pietro. E un altro che... un altro nome, Matteoli, al nono mandato. Ora, basta, Zavorra, tutto, super Zavorra. 9 sono tanti, dai. Sant'Anchè. No, ma a parte che non è che ti rompi le balle dopo 9 mandati. Ma guarda che anche insomma, no, quando c'hai il potere, ma una bella vita anche no, Senti, Sant'Anchè altro che Bossi, che la mille chiodi, caspita. E Sant'Anchè? Ma la Sant'Anchè, guarda, cioè, io non la rottamo la Sant'Anchè. Non la rottami. Mi dispiace. No, Gasparri rottamato, no? Gasparri rottamato, mi sembra, no? Di capire. Ma io Brunetta. Non ho la rottamazione, guarda. Brunetta. Brunetta mi dà uno strumento utilissimo, che? Tutti i giorni, che è il mattinale. Beh, così non è che adesso Brunetta ridotto al redattore, del mattinale. No, voglio dire, ma fa un chi parla? Lavoro per tutti. Chi è che dai. Parla ora? Che critica? Cioè, chi parla? Non ho capito, il lavoro per tutti, non ho capito. Ho detto, attacca Renzi ogni giorno, lui è l'unico che l'attacca ogni giorno. Vabbè, ma alla fine chi rottamiamo? Io non sono renziana, so, e a me non piaceva manco il fatto del Nazareno, che vi devo dire. Per cui chi è? Altri che rottamiamo chi sono? Facci un po' di nomi, sennò non capisco. Romani l'abbiamo detto, Gasparri l'abbiamo detto. Ma non volete aspettare che si autodichiarino man mano? Beh, no, ma dichiaralo tu, perché sennò è troppo comodo in questo modo. Cioè, le Zavorre chi sono? Ti ho detto Matteoli, ti ho detto Razzi. Verdini? Scilipoti te l'ho detto? Scilipoti, vabbè, ma che è troppo facile, Razzi e Scilipoti, amica mia. Cioè, andiamo più su nella gerarchia. Più su, a me non è piaciuto l'accordo del patto del Nazareno portato avanti da Verdini. Vabbè, dunque Verdini, Zavorra pure lui, vabbè. Poi? Siete pessimi. Che ne so, Verdini lo consideri una Zavorra o no? Verdini, sì, diciamo, detto, parliamo chiaro, se non parli chiaro tu, allora chi deve parlare? Io chiaro di così, ti ho detto Zavorra. Non sono d'accordo sul ma le donne, patto del Nazareno, queste donne... per esempio, le persone che sono troppo vicine, il ruolo della badante della Rossi, tu l'hai capito? Com'è possibile? Cioè, è detta anche la badante di Berlusconi, è normale? Ma è normale secondo te? Guarda, o no? La Rossi è, potete un po' chiamarla come volete, ma è l'unica che ha avuto il coraggio in questo periodo di dire il limite dei mandati, di dire il limite dell'età analitica. Salviamo la Rossi, la vogliamo salvare? Allora la salviamo. Sappiamo, che dice le cose che vabbè, che vabbè, se mi vuoi, è l'unica rottamatrice che c'è, se me la vuoi ammazzare vabbè, un po' demandati mi vuoi far pure rimanere nel partito solo con Romani, Matteo Allegri. A proposito, Bianconi ha detto che sei Hitler come ultimo baluardo, schierola. Ecco chi vuoi, è venuto in mente un'altra, la Polverini. La Polverini, via la Polverini pure, no? via tratto di penna, via Zavorra. Sì, no, io te l'ho chiesto, rispondi. Zavorra pure, la Brambilla, Prestigiacomo. Ti ho detto la Polverini, perché Verdini comunque ha un peso tutto suo che vabbè, ma tu adesso Verdini lo salvi perché è potente, c'è paura che magari poi adesso ma scusami, io sono consigliere di zona, che cavolo mi devono fare? Vabbè, ma sai, non è detto, ma saranno comunque, mi prestate un giubbotto antiproiettile? Ma Ronzulli dice che cerchi visibilità, che vuoi dire la signora Ronzulli? Ma guarda, ma che vuoi dire? La conosci? Pure prima nelle TV locali, sì. Gli ho fatto anche la campagna elettorale, pensa un po'. Invidia? Tutta invidia? Ma no, non mi interessa. Non ti interessa quello che voglio. Invece Feltri dice che la Sardone ha ragione. Ha scritto un tweet, credo ieri. Vittorio Feltri. I vecchi dirigenti che hanno rovinato Forza Italia devono andarsi a nascondere. Capito? Hai un tifoso di eccezione. Anche Rondolino oggi ho visto. Anche Rondolino, vabbè. Sì, anche Fabrizio. Anche, bisogna pigliare i voti, però, oltre Feltri e Rondolino. Bisogna avere anche un consenso. Ho capito, scusatemi, non è che sono proprio i due pirla che camminano per strada, eh? No. Ma tu pensi, ho molta stima di loro due. Ma tu pensi di essere molto meglio di alcuni parlamentari che sono alla Camera o al Senato oggi? Sì, sei molto più, o no? Ma guarda, io sicuramente sono diversa da molti parlamentari che sono alla Camera o al Senato oggi. Non fosse altro per il fatto che ho un mutuo, che vivo nella periferia di Milano, che conosco la realtà molti di Forza Italia non sanno niente. Ma molti di tutti i partiti non sanno nulla. Poi se vogliamo negarlo. Ma il punto è che tutti lo pensano, ma nel momento in cui lo dico sembra che sparo chissà quali affermazioni. Senti, ma simpatica sta Sardone. Però facciamo un test di Berlusconismo. Trovi un test di Berlusconismo. Trovi normale. Test di Berlusconismo. Aspetta, Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura secondo te? Sì, allora, o no? Sì o no? Un attimo. Berlusconi sì, tutti gli altri no. Tutti gli altri no, Berlusconi perseguitato giudiziariamente, sì, giudiziariamente perseguitato. Berlusconi, tutti gli altri che ogni volta si nascondono dietro alla persecuzione giudiziaria politica, non ci credo. Non ci credi, Berlusconi sì, gli altri indagati no. Trovi che sia giusto che Berlusconi per tanto tempo, o anche adesso, forse abbia pagato 2.500 euro di paghetta alle olgettine? Ma saranno pure fatti suoi. Sono fatti suoi, è una risposta. È una risposta. È il bene dell'Italia. Benissimo, le olgettine chi sono secondo te? No, come le definisci le olgettine? Brave ragazze che cercavano la strada del successo. Molto diverse da me. Molto diverse da te, cioè in che senso molto diverse da te? Che ho un altro stile di vita. Altro stile, cioè tu non cercheresti, come dire, i favori di un potente per fare strada, cosa legittima peraltro, o no? No, diciamo che io per esempio mi sono laureata, ho fatto un dottorato di ricerca con una borsa di studio, ho fatto. E invece loro che facevano? Magari hanno un'altra storia, decisamente un'altra storia. E Dell'Utri è un mafioso secondo te? Beh, diciamo che non penso sia proprio una persona così trasparente. Non è così trasparente, cioè se è in carcere qualche ragione ci sarà. Ragazzi, io la candiderei col PD a questo punto. Cioè, a parte Berlusconi perseguitato, sì, potresti essere candidata forse tranquillamente. Un po' perseguitato lo dico. Perseguitato ormai lo dicono pure quelli del PD. In parte, sì, appunto. In parte lo dicono quelli. Ma quando c'è qualcuno che nelle rogne è sempre perseguitato. Oramai questa è la. Vabbè, però dica una cosa di Forza Italia. Una la dica, una in stile Forza che ne Italia. So, che so, magistrati, tumore della democrazia. Che ne so. Territorio a parlare vabbè, ma quello a tornare sul territorio, dobbiamo vabbè. Parlare della sicurezza, dobbiamo parlare del lavoro. Questo che siano cose, temi di centrodestra che abbiamo totalmente abbandonato e appaltato. Ma oggi che cos'è? Oggi che cos'è? Una guerra per bande? Tra pochissimi devo salutare. Sì, lo so, ma una guerra per bande, un'ultima domanda. Forza Italia è una guerra per bande? Oggi? Purtroppo sì. In questo momento lo sta diventando ed è esattamente quello che non dobbiamo fare. Cioè, noi non dobbiamo chiuderci sui litigi tutti tra di noi e soprattutto cercando di mantenere gli ultimi privilegi, perché l'idea che ho io è più o meno questa, no? Un amico di cui non faccio nome mi ha detto: ma vuoi mettere questa sciacquetta con dell'utri? Questa mi ha mandato un messaggio: vuoi mettere questa sciacquetta con dell'utri? Dell'utri che è meglio della Sardone. Ma che ne so, però ha coraggio sta la Sardone. Carità, ma per carità, siamo sempre persone. Sardone, un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Sì, però uno per rottamare, no? Per fare il rottamatore, Parenzo, siccome qualche carta, al di là della spigliatezza, al di là della risata, della simpatia, qualche carta, diciamo, dal punto di vista personale, no? Dovrebbe averla. Renzi aveva averla. Sua che faceva il sindaco, prima ha fatto bisogno della provincia. Qualcosa hai fatto, certo, no? Sindaco poi di Firenze. Il sindaco, in questo vuoto totale di Forza Italia arriva la signora Sardone, simpaticissima, per carità, quello che ti pare, anche coraggiosa a modo suo. Adesso è anche abbastanza facile in questa situazione di deserto totale, no? Beh, di Forza molto Italia. Giovane però, eh? Sì, per carità, eccetera. Che rottami? Uno rottama quando fa il sindaco e si candida alle primarie. Uno dice rottamo perché hai la possibilità di farlo. Quello è una zavorra, quell'altro pure. Per carità, va tutto bene, però. Ah, Andrea da Modena, vai Andrea. Oh, ciao. Dimmi, caro, dimmi. Per la trasmissione, vabbè, ma questo è scontato. Volevo dire, ma secondo voi rinchiudere nei campi rom i rom non è di per sé un fattore criminogeno? Voglio sentire cosa ne dice il pubblico. Cioè, non ho capito, perché rinchiudere i rom in campi rom. Io dico sin dall'inizio di queste vicende dei rom, e lo dico per l'ennesima volta e lo voglio ripetere parole chiare. Il campo non è un fattore criminogeno di per sé, mettere una minoranza in un campo. Ditemi voi, vorrei sentire anche un po' gli ascoltatori, perché è una cosa che per me è curiosa. Gli ascoltatori li sentiamo da una vita sui rom, se voi continuiamo a risentirli non c'è bisogno che ce lo suggerisci, perché lo sappiamo benissimo. Però il punto fondamentale è questo: rinchiudere i rom nei campi, secondo me i campi rom sono una stortura, sono un abominio. Andrebbero eliminati i campi rom domani mattina. Ovviamente non è che da domani arriva la polizia e sgombera tutto. Uno dice: fra un mese, signori rom, andate a cercarvi una casa come tutti i cittadini italiani. Sarà più difficile per voi. Sarà più difficile per voi. Come è difficile per tanta gente, però. Anche per altri è difficile, non solo per loro. Cioè, quello è evidente. Per cui o c'è il nomadismo, oppure ci sono i metodi tradizionali per cercare una casa, che sono le case popolari, iscriversi alle liste di disoccupazione. No, ma sì, ma io sono d'accordo con lei al 100%, per cui non è che uno vuole radere al suolo per distruggere i campi rom. Semplicemente i rom, a mio parere, devono cercarsi una casa come tutti i cittadini italiani, quando sono italiani e anche quando non sono italiani. È arrivato lui. No, ma è così. È arrivato lui. Vabbè, allora no. Vabbè. È arrivato il sociologo Cruciani. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. Zanzara. Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Entriamo in una zona hot, caro Parenzo, dopo le 20. Bisognerebbe istituire la zona hot della Zanzara, Però a mio parere mi pare che sia spalmata, diciamo. No, appunto, però sì, su tutto tutti due ore e mezza, su tutte le 2:30, però forse è sbagliato anche la zona hot metterla dopo le 20, perché basta con queste differenze 18:30, 20, 19:40, è tutto uguale, no? Mettiamola alle 18:30, no? La signora Lady Pantera. Beh, siamo al top. Stasera so che sarà pure a Matrix la signora Lady Pantera, Sì. Con Sor Capanna anche ci sarà. Lady Pantera, transessuale ovviamente, romana, sì, ovviamente. Ovviamente transessuale, è chiaro. Ieri qui alla Zanzara ha espresso dei concetti fondamentali, direi, sì, dei, sì, dei principi basilari, ma non lo dico con ironia, eh. Dei principi basilari del vivere civile, della pubblica decenza, direi. Per esempio, quando dice che la prostituta è più conveniente di un rapporto a lungo termine. Questo direi che è da prendere in considerazione come, come dire, come panorama, come fotografia, come, anche come prospettiva di vita, direi, no? Figurati. In certi casi la prostituta è più conveniente di un rapporto a lungo termine. È una cosa che tu consumi e basta, ma non stai lì che devi fare una storia d'amore, devi fare tutta la parte, la finta, che poi alla fine va a mettere uguale le corna a tua moglie. Io credo che se un uomo non ha una eacolazione ogni minimo due giorni, naturalmente si sente male, e le prostitute sono le vie di sfogo, è una cosa chiara. Non usiamo l'ipocrisia perché è così. Allora, se restate con noi fino alle 20:50, dunque 50 minuti, ma ci sono un sacco di cose molto molto forti da qui alle 20:50, vi voglio fare ascoltare, direi quasi integrale, la segreteria telefonica della signora Lady Pantera, perché secondo me è un pezzo artistico formidabile, cioè uno straordinario, come dire, affresco, anche creativo, perché ci vuole grandissimo, io non ci riuscirei, grandissima creatività per arrivare a una soluzione di questo tipo, grandissima creatività. Lady Pantera, questo è un po' meno condivisibile, diciamo, se la donna ha il semaforo rosso, l'uomo va a prostitute trans, amico mio, vabbè, se tutte le volte che uno... No. Beh. Un linguaggio alla galle della loggia proprio, eh? Vabbè, non è uno, vabbè, ma perché stai come dire, bistrattando Lady Pantera? Cioè galli della loggia la Lady... del sole, allora, se io devo andare una sera a cena, no, diciamo la verità, se uno una sera dovesse andare a cena, tu sì, con chi scegli di andare? Con galli della loggia, con galli della loggia o con Lady Pantera? Beh, ma non capisci un cazzo, io vado con Lady Pantera ma tutta la vita, ma non per scoparmela, sto dicendo semplicemente perché è Lady Pantera. Ma cosa vuoi che dica? Muori a suono il braziero e se vuoi a bobo. No, ma scusami, veramente, se io devo decidere, la mia curiosità è più attratta da Lady Pantera che da Galli della Loggia o Angelo Papi, ma quello è normale che sia così, è assolutamente normale, sei tu che non sei normale, ma chi stai facendo pubblico? Passare come una cosa, chiedi al pubblico. Vabbè, ti piace un mondo così, a me fa cagare un no mondo a me così. Non fa per ragione, fa cagare. Vabbè, Lady Pantera, dai, ancora. Se un uomo non riesce ad avere una eacolazione minimo entro due giorni, io credo si senta male. E tante donne hanno anche i loro problemi, il semaforo rosso, a volte le donne non sono disponibili e devono rivolgersi sia alle prostitute. E in quel caso decidono donne o trans o uomini, che comunque va molto di moda ultimamente, soprattutto quelli più dotati, chiaro? Ride, ma dai, cosa è incredibile, stupendo. Lady Pantera, io non ho capito perché, se Matrix la invita va bene, se no, la invitiamo noi invece non va bene, guarda, no, che sei incredibile. Io credo che signor Terese non le chiederà nel dettaglio il semaforo, cose, beh, sarà lei a dirlo, sbaglia, credo. Perché che fa, la che fa, so. le fa fare la filosofa lì sul piedistallo a ragionare sul mondo, sulla crisi, sull'ISIS, signora, non lo so, scusi dottoressa, lei dai, cosa pensa della riforma della legge elettorale? Sandro da Sassari, Sandro, vai Sandro. Sandro, Franco da Bergamo, dai, Franco da Bergamo, su. No, volevo solamente rilacciarmi al discorso di ieri sera sulle animalisti. E sì, vegani. Ancora qualcosa degli animalisti? Se no vi annoio, se no... Posso? Sì, vai, fai no, quello che vuoi, vai dritto. Io sono un ex cacciatore, un ex pescatore. Perché non dico pentito, però rivisitate in quanto la pesca e la caccia al giorno d'oggi non sono più sport, ma cioè non sono più una cosa di sopravvivenza. Franco, ma... adesso io vengo da una discussione sui transessuali e tu adesso mi riporti giustamente alla questione degli animalisti, eccetera eccetera, ma spiegami un po' che cosa mi vuoi dire, bisognerebbe cosa... No, cioè volevo innanzitutto sapere dai vegani lì, sì, che dieta consiglierebbero gli eschimesi. Che dieta consiglierebbe? Solamente ma i vegani, ma i vegani se ne fottono del, di quello che succede in Groenlandia o non so dove. Così fanatici, amico mio, ma sono i vegani, come si diceva una volta di qualche politico, sono i vegani. Gli schimmesi, cavolo, dovrebbero mangiare la neve, la ghiaccia. Sono i vegani, stiamo parlando dei vegani. Ma voglio ripetere la cosa che ha detto zio Bianconi sui vegani o no? Poi magari la recuperiamo, zio Bianconi. Sono i vegani, uno basta dire, sono vegani, vabbè, ho capito, sono vegani. Ho capito, però... Sandro Sassari, vai, Sandro. Un tanto mio amico mi scrive, tutti i trans, bisognerebbe dire a Parenzo che tutti i trans brasiliani vengono in Italia perché c'è la più grande percentuale di piglia in culi pervertiti d'Europa, detto da loro. Che hai. Ottimo, mi scrivono in maniera molto chiara, molto esplicita, il motivo per cui tantissimi trans brasiliani vengono in Italia. Questo è il punto. Ah, quindi una ragione di mercato. Cioè, sì, no, certo, assolutamente, trovano un mercato favorevolissimo in questo Italia. Tuo amico, editorialista del Sole 24 Ore, ha perfettamente prossimamente ragione. Sì, Sandro da Sassari. Sandro da Sassari, beh, ottimo, perché che male, ma è vero, una sintesi economica giusta. Ma è una sintesi formidabile, Sandro. Ma è vero, perché c'è tanti vengono in Italia? Perché c'è richiesta, in particolare di gente che lo vuole anche nel di dietro, per dirtela in maniera un po' più edulcorata. Sai, dettagli che vabbè, saranno dettagli, ma può anche immaginare, no? Vabbè, Sandro da Sassari, dai, Sandro. Merito sempre. Sono qua io. Dimmi, caro, dimmi. Posso, poi. Hai chiamato? Niente, volevo dire qualcosa sulle torture del G8. Dimmi. Tu puoi dire quello che vuoi, basta che te sbrighi. Appunto, io, cioè, la sentenza di Strasburgo, non, sì, va bene, condannare la polizia che ha esagerato va bene, sì. Ma non tener conto che i torturati sono i cittadini di Genova, mi sembra... Io, è la prima cosa di cui tengo conto, guarda, la prima cosa di cui tengo conto è che i responsabili di quei giorni sono i delinquenti che hanno messo a ferro e fuoco Genova. Su questo non c'è dubbio. Dopodiché, e poi non è che uno chiaramente in cittadini di Genova. Sì, d'accordo, benissimo. Sicuramente poi non sono stati i fari Vendola che si indignano tutti, sì, per l'operato della polizia. Sì, non hanno mai detto una parola contro i violenti, questo è vero. Molti hanno sbagliato, ma non togli sono gli stessi che festeggiano il 25 aprile. Vabbè, adesso che cazzo c'entra il 25 aprile? Scusa, cosa certo c'entra? Che c'entra? Perché i partigiani forse non hanno fatto le torture. Adesso arriviamo ai partigiani. Eppure li festeggiano loro. Lo sciocco delle 20:07. No, eccolo qua. Scusami. Ecco qua. Ecco lo sciocco delle 20:07. No, c'è un fil rouge, c'è un filo. Quando mai non parlava lo stronzo comunista di merda. Eccolo qua, l'idiota delle 20:06, 20:08. Ecco l'idiota, che allora, idiota, ti ha dato dell'idiota. Arriva l'idiota, 20:08, tu vai, arrivato. Cagare, vai, ecco vai, qua. Ecco il cretino delle 20:09. Ti ha dato dell'idiota. Il cretino che arriva. Eccolo. Uno stronzo assieme a una persona come eccolo deve, qua che messo, galleggia, che arriva galleggiando. Eccolo che arriva galleggiando. Però scusa Parenzo, Sandro su una cosa ha ragione, che ha i partigiani che dietro due. Questa roba dei partigiani non sia mai stata ammessa per tanti anni la a guerra finita sto parlando io, non prima, sì, diciamo, non prima. Tu dici lo stesso c'entra? Atteggiamento che hanno alcune persone sul G8 lo hanno anche su quelle vicende. Ma lì, questo vuoi dire? Certo, certo. Ma cosa vuol certo. dire? Cos'è? Cosa vuol dire? Vabbè. Se non capisci mica è colpa mia, Parenzo, cosa vuoi che ti dica? Sei tu che vai a festeggiare il 25 aprile con gli eredi dei vigliacchi traditori che hanno tradito l'Italia. Eccolo qua, ecco l'idiota. Stai zitto almeno. L'idiota. Chi ha tradito l'Italia? Scusa, Sandro. I partigiani per lui. I partigiani. Ma perché è un fascista l'Italia? Questo, chi l'ha tradito? Vabbè, infatti, l'idiota, grazie ai partigiani, può dire questo. Ma tu sei fascista, capito? Sandro? Ma certo, certo. Beh, no, certo. Ma certo. Galleggia, ma scusa, galleggia per forza, no? Ma perché galleggia? Sei tu, testa di cazzo. Perché galleggia? Galleggia. Non ho capito perché gli dai dello stronzo. Perché gli dai dello stronzo? Non ho capito. Ho detto che galleggia. Vabbè, ho capito, però gli hai dato dello stronzo. Se avessi voluto dire che è uno stronzo. Ma lo dici, abbi il coraggio di dirlo. Se avessi voluto dirgli. Galleggia. Vieni qua, Sardegna, ti faccio galleggiare io. Galleggia, amico mio. Continua a galleggiare. Ma ho capito, ma perché gli dai dello stronzo? Galleggia non come una boa, diciamo. Vabbè, ma diglielo esplicitamente. Sei una merda, sei uno stronzo. Diglielo chiaramente. Galleggia. Dimmelo però, dimmelo, pezzo di galleggia, amico mio, galleggi. Ma perché non glielo dici? Perché non glielo dici? Non hai coraggio, è un vigliacco come gli eredi dei partigiani. Ma è evidente che è uno stronzo. Ma perché non glielo dici? Ma è evidente che è uno stronzo. Se è uno stronzo c'è un pezzo di merda, diglielo chiaramente, galleggi come una merda secca, una merda secca. Vieni quest'estate in Sardegna, vieni. Vabbè, adesso non esageriamo, Sandro, che succede? Vai in Sardegna. Per galleggiare, no, peraltro no, perché qua c'è il mare, c'è un in bel Sardegna mare. In Sardegna vengo molto spesso. Si vede che galleggia. Molto spesso. Ma scusi, ma signor Sandro, ma lei è veramente fascista? Sì. Ma c'è molto fascista? Mi pare evidente, no? Sono fascista, non è che voglio rifare il Partito Nazionale Fascista, ma ritengo che l'ideologia fascista non sia il male assoluto come tutti vogliono far credere. No, ha fatto del bene all'Italia il fascismo, dice lei. Molto bene all'Italia. Confermo, una merda secca, confermo. Una merda secca, Sandro. Secca però. Secca. Ho detto secca. Cioè, no, potevo anche quelle che galleggiano però non sono secche. Perché adesso è diventata, a forza di galleggiare al sole, è diventata secca ed è affondata. Che dici tu? Non ho capito, Sandro. Che dici di Parenzo? Non ho capito bene. No, vabbè, tanto non sono il primo che glielo dice, ci avrà un elenco di... Vabbè, Sandro. Che non... parla, offende le persone senza motivo, cioè beh, no, non senza c'è motivo non mi pare, nulla per il motivo mi pare evidente, si è definito un fascista. Vabbè, quello orgoglio, che vuol dire, quindi, cioè, non motivo... è uno di dire merda, che beh, è meglio è comunista, è meglio essere comunista come te, l'ideologia dei comunisti hanno firmato la Costituzione italiana. Ma ancora, e poi io non sono cosa. Comunista, quella ma i comunisti hanno parte della storia d'Italia, sono parte orgogliosa della storia d'Italia i comunisti, assieme ai liberali, ai democristiani. Sandro, ciao, arrivederci. Tira l'acqua, ciao. Questa trasmissione è assolutamente geniale. Zanzara. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, novità da Radio Padania. Un'ascoltatrice di Bergamo chiede a Salvini delle Soardi. Guarda oltre i monti. Qui è molto alto ancora il valore che danno alla famiglia, veramente, e ancora oggi ci credono. E quando dicono sì, però Salvini parla, però la Fallaci diceva la coerenza deve essere a 360 gradi. Alla signora di Bergamo dico che un conto sono le battaglie politiche su cui vanno giudicate le persone, per quanto riguarda la vita privata delle persone non penso che sia compito né mio né della signora metterci becco. Figlia della libertà. Salvini risponde alla signora che gli aveva detto vabbè, ma bisogna avere coerenza nella vita privata con le posizioni politiche, che no per me non... io questo non lo condivido, ma io nemmeno non commento la vita e privata. Salvini dice non metta becco nella vita privata, posso divorziare mille volte, avere storie con chi voglio, certo, non, che non... non voglio mettere becco vita privata di Salvini perché è la sua vita, però, e le sue cose, le sue però cose. Però sui Rom, che c'entra i Rom con andrebbe qualcosa. No, va combattuto su quello che dice, che non su quello, bacia quello, bacia, può baciare chi vuole. Baciasse un uomo, quello diventerebbe interessante, no? Se baciasse, ma perché dovrebbe baciare un uomo? Scusa, no, perché perché lui è contro il riconoscimento delle coppie. Vabbè, ma non bacerà un uomo, no? Semplicemente che non gli piace baciare un uomo. Baciasse un uomo il bacio a un uomo quello creerebbe. Però sulla sarebbe famiglia una notizia. Tradizionale non ha mai detto nulla di particolare. Non è che dice solo, anzi, si è sempre battuto per i separati, i divorziati, i padri separati. Quindi, no, in questo c'è una coerenza. In questo bisogna riconoscerlo, poverino. Tutto per la libertà. Basta con il kebab. Servi di Roma fuori. Altro ascoltatore. Senza dubbi né ripensamenti. Il reato di occupazione. Il che significa che se qualcuno viene in casa, mi sfonda tutto, mi entra dentro, io non potrei più chiamare, anzi posso chiamare i carabinieri, ma nessuno li butta fuori perché, se ho ben capito, dovrei rivolgermi ad un giudice. Quindi secondo lei io come risolvo la situazione? Dato che io ormai ho un'età tale per la quale se vado a finire in galera non me ne frega niente, compro 25 litri di benzina, muoio a Sansone con tutti i filistai, do fuoco alla casa. Ritorna questo tema della casa, ritorna. Di dare fuoco alla casa. Altro ascoltatore, Radio Padania. Ho mangiato un po' di salsiccia non l'ho mangiato. Io l'unica cosa che ho mangiato è un po' di salsiccia nella frittata e basta. Solo che sono stato male, ho vomitato e per non sporcare poi la mente c'era in giornale, come ho detto l'altra volta, mi è successo un'altra volta, e con gusto ho vomitato sulla faccia di Kegel e di Renzi. Cioè questo ha vomitato sulla faccia della Kieng e di Renzi. Radio Padania. Ti rendi conto l'elettore della Lega chi è? Ma dai, non dire cazzate. Ma tu ti rendi conto o no? Il traffico. Tipico. Traffico veicolare. La Zanzara. Siamo al flop. All over the world tonight. Ieri abbiamo accennato, Parenza, a quella vicenda incredibile di Taranto, no? Dove un signore, un ragazzo di 42 anni ha denunciato un prete che era nella diocesi di Taranto. E poi questo qua è stato cacciato, ha denunciato delle cose gravi, cioè il sesso online, sesso di questo prete con altri preti, eccetera eccetera. Ora io voglio cercare di capire, mi sono procurato il numero di questo tizio che si chiama Andrea Baldon, 42 anni, quello che ha denunciato tutto, poi sì, l'arcivescovo di Taranto ha cacciato via dalla sua diocesi questo prete, il prete si chiama padre Antonio Calvieri, però questo Baldon oggi in un'intervista, credo al Corriere del Mezzogiorno, ha detto delle cose che non mi sono, che non mi tornano tanto, non mi tornano tanto. Vediamo un po', facciamo un po' sto numero. Ma non risponde, dai, figlio. Pronto? Sì, Baldon? Sì. Buonasera, sono Cruciani, chiamo da Radio 24, come sta? Sì, bene, bene, salve. Sì. Senta Baldon, io volevo chiederle una cosa, mi spieghi un po' com'è nata questa cosa della denuncia alla, al Tribunale Ecclesiastico di Taranto, da cosa nasce? Niente, praticamente tutto è iniziato che io ho un profilo Facebook, sì, al quale condivido assieme ad altre persone, beh, certo, pensieri. Opinioni, sì, sulla Chiesa, sì, avanti così. Dal punto in bianco si vede che c'era un'amicizia in comune tra amicizie, ok? Sì. E mi ha aggiunto questa persona. Sì. Okay? Padre Antonio Calvieri, giusto? Sì, esattamente, sì. Sì. Ecco. Con cui lei ha cominciato a intrattenere una corrispondenza via Facebook, o sbaglio? Esatto, è proprio così. Ecco. E che è successo dopo? Ha cominciato a chiedere delle prestazioni sessuali? Che cosa ha detto? Esatto, dopo un paio di giorni ha iniziato a confidarsi che lui ha una debolezza, che lui è gay, ok? Volevo capire una cosa, cioè che cosa ha scritto sostanzialmente? Sozzerie, tipo, mi dica un esempio di una cosa. Esempio, praticamente, mostrami il tuo cazzo, ce l'ho duro, fammi vedere che vieni, fammi vedere il tuo sperma. Cose del genere, insomma. Voleva foto di lui, lei gliela ha mandate le foto? Certo, sì, io le ho mandate. Come c'è? Io le ho mandate le foto, ok? Sì, ma era parte, voglio dire, partecipava anche lei a questa cosa, magari si masturbava anche lei. Io dicevo di sì, ma facevo finta, ok? Perché io lo facevo, sì, lo facevo perché lui, sì, ok, mi aveva promesso determinate cose. Cosa ti aveva promesso? Ti do del tu. Sì, allora lui mi aveva detto che mi pagava il biglietto per andare da lui, ok? Dove lui aveva la parola, sì, che l'aiutavo in chiesa, a sistemare la chiesa, a fare queste cose. Insomma, mi affidava un lavoro, ok? Il cambio di lavoro praticamente si faceva le cose sante e anche nello stesso tempo si divertiva. Ti piaceva stare al telefono con lui, dai. Stare al telefono via chat, via Facebook con lui ti piaceva? No, io principalmente sono etero, ok? Ecco, quindi... Principalmente sei etero, che significa? Che non sono gay, ok? Non sei gay, ma avevi una fidanzata all'epoca? Sì, esatto, sì, esatto, sì. Ma lei perché è stato al gioco? Io sono rimasto non al gioco, ok? Mi aveva, come si dice, cioè mi aveva promesso determinate cose che io qua non avevo, essendo disoccupato. Mi aveva detto: ti faccio star bene, ti do dei soldi, ti do un mensile, ti do questo, ti faccio star bene io e tutto quanto. E iniziamo per telefono intanto a vederci, a fare sesso e tutto. Dopo un periodo, sì, queste lunghe chattate, lui cosa fa? Mi dice: guarda, sono a Roma, vieni a Roma, che ho anche un mio amico sacerdote. E così facciamo sesso, facciamo un'orgia. Facciamo un'orgia, sì. No, guarda, io non posso venire a Roma. Ti saprò dire. Io voglio capire una cosa, ma lui ha raccontato anche di altre storie di sesso lì a Taranto? Ti ha raccontato? Lui mi ha raccontato esplicitamente che ha fatto sesso con altri sacerdoti, con ragazzi, ma non mi ha specificato esattamente che li ha fatti da Taranto. Lui mi ha detto che faceva tramite Facebook, incontrava, ma non... Ma io voglio capire una cosa, perché a un certo punto hai denunciato tutto? Non riesco a capirlo, perché ti ha plagiato, perché hai detto che assumevi dei tranquillanti, assumevi delle medicine, hai lasciato la fidanzata. Dopo dopo sono arrivato a un punto tale che lui, ok, mi tartassava giorno e notte, ok, e di conseguenza, di conseguenza ho avuto una debolezza anch'io. E che hai fatto con e che hai fatto? Ecco, sono stato quello che lui mi diceva. Ecco, vederci su Skype, cambiarti le foto. Così. Cioè, ti ha plagiato, non ho capito, ti ha plagiato. Ecco, in poche parole, sì. Scusa un attimo, ok, un momento, perché vediamo se ci capiamo. Sono Parenzo, buonasera, ciao. Okay. Allora, se ho capito bene, amico mio... Sì, siamo in due, ma in due città diverse. Se ho capito bene, amico mio, la situazione è questa. Tu avevi bisogno di soldi, allora ti sei prestato a tirar fuori l'uccello? No, lavorare. Io non ho contattato nessuno. No, lui ti ha contattato. Poi avete tirato fuori l'uccello, questo, quell'altro. Cioè, lui non ha mantenuto le promesse, ok? Lui non ha mantenuto le promesse, ok? Che aveva fatto. Okay. Tu ti sei arrabbiato e l'hai denunziato, è così? No, io alla fine l'ho denunciato. Io alla fine l'ho denunciato al tribunale ecclesiastico. Perché? Per il semplice motivo che lui mi ha raccontato dei fatti, ok, che faceva e che fa, e che secondo me non era giusto che un sacerdote faceva nei confronti della Chiesa. Mi sono sentito il diritto, il dovere di annunciare alla diocesi con prove tangibili. Ma tu ma è tutta una porcheria, ok? Cioè, si può dire un attimo che questa roba qui è tutta nel suo insieme, hai tirato un po' una porcheria. Anche tu hai tirato fuori il pisello eccetera con lui, sì o no? Sì, e diciamolo, diciamolo tutto, Beh, ma come però capisci, amico mio, che è tutta una porcheria, però questa qui mi pare, ok? Cioè, ti sei pentito questa cosa, hai chiesto perdono davanti a Dio, Ma insomma. Certamente, che ne so. Ovvio. Nel frattempo hai lasciato la fidanzata e hai preso i tranquillanti. Dopo, alla fine di questa storia, dopo un mese e mezzo, due, Sì. Che noi ci sentivamo, alla fine io non ho più retto, perché lui mi ha detto, e che tranquillanti hai preso? L'Inias e l'Exotan. Ma non ho capito perché lo vuoi denunciare questo qua. Oltre alla denuncia che hai fatto al tribunale ecclesiastico, lo vuoi pure denunciare alla magistratura. Per quale reato, scusami? Sarà il pubblico ministero che deciderà il tipo di reato che faceva. Beh, ho capito, ma tu eri consenziente, non è che non eri consenziente, sei adulto, eccetera, eri abbastanza consenziente, e quello che facevi l'hai deciso in piena autonomia, no? No, allora. Ti ha plagiato, ma ti ha plagiato. Chi ha tirato fuori l'uccello? Io non capisco più adesso, scusami, perché, scusa se mi scaldo, perché entro nella storia con ma chi ha tirato fuori sto uccello? Tutti e due. Vabbè, eccola. Lui all'inizio. E tu dopo. Ma roba incredibile, dai. E tu che altre cose hai fatto in chat di porcherie? Quello che lui mi diceva di fare, ok? Ma tipo cosa? Cosa tipo? Cosa? Allora, lui mi diceva di masturbarmi, è una porcheria, di bere la mia pipì, è una porcheria, dai, tutte queste cose qua, va bene? Ma sì, ma è una porcheria, non va bene, è una porcheria, sono tutte documentate, perché saranno documentate, ma è una porcheria, capito? In generale, io dico, è una porcheria, secondo me. Va bene, questo è il punto, però. Vabbè, comunque hanno cacciato sto prete da Taranto. Sei contento? Quelli sono. Io non ho scritto alla diocesi di Taranto di farlo allontanare. Beh, insomma, allora perché? E tantomeno gli ho scritto di intraprendere relazioni, io li ho informati su come si comportava un suo sacerdote all'interno della loro città. Vabbè, Andrea, ti saluto, grazie. Ciao. Va bene, ciao. Sarà anche una storia drammatica, però io un po' rido perché a me mi pare veramente poco credibile tutta questa vita. Per carità, esisterà sto prete, perché se l'hanno cacciato evidentemente il vescovo avrà visto queste mail, questa documentazione mandata da questo signore. Continuava a dire è tutto documentato. Ok. Questo è come Jacopino che diceva cosa, no? Che diceva? Ti prego. Questo ok. Nicola da Roma, vai, Nicola. Oh, che spettacolo, Cruciani finalmente. Vai, dimmi. Allora, velocemente, no, a parte che secondo me devi fare, questo è un format, cioè tu, la trasmissione io l'adoro, sono diventato dipendente. Comunque, volevo parlare di droghe, anche se sono fuori tema. Dunque, io ho 48 anni, la prima canna me la sono fatta a 16 anni. Sì. Dopodiché mi è capitato per certi periodi di fumare, per anni di non fumare più, e ogni tanto adesso se capita, con i vecchi amici mi faccio una canna. Io dico a quelli che non capiscono un cazzo, che pensano che farsi una canna equivale all'eroina, o che addirittura chi si fa le canne prima o poi... Sì, allora, certo. La stessa cosa, il ragionamento è semplicissimo. Quanta gente beve il vino? Allora che sono tutti alcolizzati? No, ma è certo, ma Nicola, ma con me sfondi una porta aperta, ma no... No, ma sfondi una porta aperta, anche se io non mi sono mai fatto una canna in vita mia, ma non è questo il punto. Dire che si passa che per forza, se uno, o comunque è possibile passare dalla droga leggera alla droga pesante, è una cazzata. Poi dicono tutti quelli che si sono fatti di eroina o si fanno di eroina, sicuramente si sono fatti una canna. Ma che vuol dire? Non vuol dire assolutamente nulla. Io sono dell'idea che bisognerebbe qualche volta, quando si fa sia in radio che in televisione, si fanno questi discorsi, bisognerebbe parlare non solo con i medici, gli scienziati, ma anche con chi ne ha fatto uso, perché stranamente... Vabbè, però lì Nicola, lì l'esperienza, no, anche, però l'esperienza però varia da persona a persona, No, ma lì... Assolutamente, ma è come con l'alcol, tanta gente inizia a bere una birretta e purtroppo però diventano alcolizzati, c'è gente che beve da 90 anni e non si è mai... non sono mai stati alcolizzati. Non è che uno deve dipendere necessariamente né da uno stupefacente né da certo. Quindi io penso che ci sia proprio un qualunquismo allucinante. Ma vabbè, gli argomenti vanno toccati, altri 10.000, ma so che non posso. Una cosa sola, sì, dimmi, i zingari, che molto spesso si parla anche non si parla mai non tanto dei rom, ma degli zingari, quelli proprio gli zingari, quelli che vivono con le ville, con le piscine. Io so di Roma, sempre Rom sono, zingari Rom è uguale, comunque sì, allora io c'ho esperienze, tu dici personali. di quelli introdotti, cioè non di quelli che vivono nei campi Rom, no, alcune quelli sono famiglie criminali, quelli. Io ho esperienze personali, sì, di criminalità, di criminalità commerciali, che hanno solato e continuano a solare continuamente tutti, perché vengono al negozio, ti comprano una cosa, pagano, la seconda volta pagano, la terza pagano, la quarta ti comprano il mondo, ti dicono via, me la consegni a casa, poi col cazzo che te pagano, e se poco a me mi è capitato, gli vai a dire, oh ma scusa, ma tu, oh, se ancora mi telefoni, vengo là e t'apro come maiale, fino a un coltello in pancia, cioè fanno la piccola camorra, la microcriminalità, sì. Quando vai a parlare però, con Nicola, porto, dice lascia perdere. Sì, vabbè, ma questo qua funziona anche per quelli che non sono rom, cioè di criminali, diciamo, ce ne sono tanti. Questi sono italiani, è poi vero. Sono di etnia rom criminali, d'accordo? Vero, ma come ci sono i camorristi, gli indranghetisti, i criminali che non sono né indranghetisti né camorristi, e sono italiani e non sono rom, è uguale. Io parlo semplicemente dei campi rom e della piccola criminalità. Poi oggi qualcuno mi faceva osservare, l'amico professore maestro Giorgio Grasso, che in realtà i rom non sono quelli che vanno ad ammazzare nelle case quando fanno le rapine, cioè sì, quando fanno i furti nelle case, perché quelli più violenti sono in realtà gli slavi, i romeni, eccetera eccetera. I rom veri e propri sì, rubano, danno fastidio, sicuramente rubano un sacco di roba, però sì, non ammazzano, cioè non è che ammazzano la vecchietta, eccetera eccetera, almeno così dice lui, il professore Massimo Giorgio Grasso. Non ha tutti i torti, professore. Forse. Spettacolare. Fatti guidare da chi conosce la strada. Ubi Pramerica, da sempre al servizio dei tuoi investimenti. Vi presenta Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ci siamo dimenticati, caro Parenzo, di Antonio Razzi, che domani sarà ospite della Zanzara negli studi di Roma, che ieri sera a un certo punto ha definito i transessuali dei toast. Rosto, io lo chiamo un toast, non sono transessuale, un toast. E i tramezzini sono quei famosi i gay, beh, come lo dicevamo noi in dialetto, li chiamavano pure ricchiune, no? Poi ha anche aggiunto, io li rispetto i trans perché lavorano. Evidentemente si riferisce alla prostituzione, però non è che tutti i trans fanno le zoccole, no? Non è che tutti, no, io ne conosco una, ne conosco diverse di transessuali che non si prostituiscono, cioè vabbè. Oh, non abbiamo parlato della vicenda Le Pen. Nella vicenda Le Pen un po' chi se ne frega. Bellissimo. Io devo dire, no, devo dirti la verità. Lo sai che do ragione in questo caso al vecchio? Non avevo dubbi, purtroppo. No, do ragione al vecchio per un motivo molto semplice. Aspetta, è libero? Ma scusa, ma che cazzo fai? Te ne sei andato? Non ho capito. Sto andando via. Ma non ho capito, ma non dici un cazzo, scusa, non ho capito. Improvvisamente non dici una mazza e te ne vai. Ah, ho capito. Cioè, il vecchio De Pen ha ragione sulla figlia, ha ragione perfettamente, per un motivo molto semplice, perché fino adesso è andato bene il vecchio Jean-Marie Le Pen, quando diceva le cose contro gli ebrei, quando diceva le cose a favore del regime di Vichy, dei collaborazionisti, dicendo che le camere a gas sono un incidente della storia, insomma minimizzava sull'olocausto, dice delle cose orribili, non sono d'accordo. Detto questo, fino adesso è stato pienamente accettato, adesso invece che il consenso aumenta lo buttano a mare. Cioè, su questo mi devi dare ragione anche tu, Parenzo, o no? Oh, David! Roberto da Chieti, vai! Sì, ciao Beppe, buonasera. Volevo intervenire sulla questione di Roma, sentivo quello che diceva Salvini sul Cacciarli dei Campi Rom. In parte sono d'accordo, però poi bisogna vedere dove li andiamo a mettere. No, ma non bisogna metterli da nessuna parte, devono andarsi a cercare la casa come tutti gli italiani, devono fare i nomadi, due possibilità ci sono. Io, essendo anche un uomo di sinistra, sono in disaccordo con Parenzo su quello, perché per allora? Me sono parassiti della società. Già il fatto in che senso mettono... sono parassiti della società? Ma nel senso che vivono sulle spalle degli altri senza fare niente, prestano i soldi a usura e sono ricchissimi, si mettono fuori alle chiese di domenica perché sanno che va gente e quindi vanno a togliere soldi alle chiese. Secondo me questo significa essere dei parassiti. Il problema se li metti nelle case è che dove li vai a mettere? Magari queste case dove abitano persone normali si deprezzano, perché poi non tutti li vogliono, insomma. Ma infatti ci vuole un percorso lungo di integrazione sociale in cui ad esempio si stanziano dei soldi per formare degli operatori che vanno. Ma tu lo sai, i soldi che sono stati spesi inutilmente, centinaia di milioni spesi inutilmente, centinaia di milioni in questi anni spesi inutilmente per ottenere risultati zero risultati. Dai, su. C'è lo scandalo di Roma Capitale che urla. Ma che c'entra? Cosa, appunto sono soldi spesi inutilmente. Politici e cooperativi, falsi cooperativisti che hanno rubato più dei rom, infatti, a spese loro. E questa è la storia. Comunque oggi Buonanno ha detto che i rom sono la feccia della società, e poi dice sono parassiti da prendere a legnate, signor Buonanno. Roberto, che volevi dire ancora? Posso dire una cosa? Volevo dire che i rom, come tutti gli altri, e come purtroppo spesso non succede in Italia, dovrebbero rispettare le regole come le rispettano tutti. Cioè, il problema nostro italiano è che poi se si va all'estero ci si rende conto che noi abbiamo un problema nel rispetto delle regole. Cioè, i rom possono stare in Italia ma devono rispettare le regole, non devono rubare. Vabbè, ma quello vale per tutti, ma è normale che vale per tutti. Dai, su. Prima sentivo l'intervista di due bambini, tanto se mi arrestano esco subito. Ma quella è l'Italia. Quella è l'Italia. Esatto. Quella è l'Italia. Quindi il problema è un rispetto. Va bene, Roberto, ho capito, grazie. Gabriele Ascoli, vai. Salve, buonasera. Dimmi. Volevo dire a Parenzo che sulla questione di Salvini, secondo me ha ragione lui. Cioè? Che i campi rom non devono essere chiusi. Ma devono essere trasformati tipo in campi di lavoro, così, perché quelle due ragazze di Roma che dicono io non vado a lavorare. Che vuol dire? Parenzo, non si sente una mazza! Vai, Gabriele, forza! Quelle le prendi, le metti in un campo di lavoro e le fai lavorare a spaccarsi la schiena dalla mattina alla sera. Ah, lei propone i campi di lavoro, lei propone i campi di lavoro, cioè trasformare i campi rom in campi di lavoro. Esatto, e Parenzo si potrebbe fare tipo Capone nella situazione. Tipo? Tipo un capo come erano i campi. Ah, lei Parenzo nelle vesti di capo. Di capo. Cioè, capito? Ti ha dato del capo. Battuta da idiota. Non lo sento, però, Parenzo. Ma figuriamoci quanto lo posso sentire io, Gabriele. Cioè, siamo all'abisso della radio, cioè all'abisso. Che dicevi, Parenzo? Non ho capito. Battuta da idiota di questo. Battuta da idiota, benissimo. Grazie, Gabriele. Ciao. We'll be right back. Continua il nostro viaggio nel mondo dei comuni italiani che vogliono disfarsi di alcuni cognomi scomodi. Ci sono molti comuni che non sopportano più che i propri cittadini si chiamino per esempio Schettino. E i funzionari di vari comuni italiani chiamano le famiglie Schettino. Per dire, ragazzi, siamo disposti anche a mollare dei quattrini, però cambiate cognome. Per noi è una vergogna chiamarsi Schettino. Pronto? Signora, buongiorno, chiamo dal comune. Sto cercando il signor Francesco Schettino. Non è in casa. Lei forse, anzi sicuramente, sarà informata del fatto che dovete cambiare cognome. Perché? Beh, per motivi legati al decoro, alcuni cognomi vanno cambiati a breve, e compreso il suo. Mi darà atto, signora, purtroppo Schettino, lo dico insomma col massimo rispetto, ma insomma getta del discredito sulla comunità. È vero. E quindi bisogna cambiare il cognome, signora. Non lo so, deve parlare con mio marito, perché io faccio rasulo di cognome, per cui il problema non è mio. Pronto? Sì, signor Schettino, buongiorno. Sì, buongiorno. Per motivi legati al decoro, alcuni cognomi vanno cambiati e il suo cognome rientra in questa categoria. Ma lei sta scherzando, stia bene, è una bella battuta fatta, non devo cambiare proprio niente. Pensi di cambiare il suo, pensi di cambiare il comune suo. Ha deciso, per una ragione, una questione d'immagine, sì, il suo cognome getta discredito, sì, sul comune. Senti, lei getta discredito su se stesso e sul comune. Pronto? Sì, signor Francesco Schettino. Sì, sì, che parla? Sì, parlo dal comune. Il comune ha stanziato 1.000 euro per il cambio di cognome. Anche 2.000 euro per me va bene così. Ma lei è proprio sicuro? Lei si rende conto? Sicurissimo. Sicuro, sicuro? Bene, guardi, che poi non la richiamo, è un'occasione, grazie, persa. Grazie, non si è un'occasione, grazie, persa, si renda conto. Grazie, arrivederci. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune. Sto cercando il signor Francesco Schettino. Ma che cosa vuole il comune? Mi faccia sentire. Il comune ha avviato la procedura di cambiamento di alcuni cognomi imbarazzanti e Schettino risulta fra questi, purtroppo. Ma che cosa sta dicendo? Sto dicendo che dovreste cambiare cognome, signora. Ma capo, che volesci? Ma state buona, ho stato in qualche manicomio. No, signora, anzi abbiamo stanziato anche 1.000 euro. Mi fa piacere, ma qui a capo che vedi, 5 minuti fa mi ha telefonato un altro e mi ha detto la stessa cosa. Ma che te ne dici, niente a fare, un comune che era tutto scassato, non conge niente, sta vuoto di fame, da 1.000 euro a chi cagno cogno, ma vatti a fare la camminata. Le grandi iniziative dei comuni italiani. Imma, provincia di Lodi, vai. Sì, Imma, dimmi. Ciao, volevo fare un intervento sulla questione dei Rom. Sì, però togli il viva voce, quello che è, sennò si sente una mazza, dai. Vai. Niente, io sono abbastanza d'accordo con Salvini, nel senso che credo che debbano essere eliminati i campi Rom, però sì, sono anche d'accordo su un cambiamento culturale dei Rom, quindi dovrebbero adeguarsi alle nostre norme, come diceva Roberto poc'anzi. Non sono d'accordo con la ghettizzazione, quindi. Ma con chi è d'accordo? Lei non ho capito, è d'accordo con Salvini, è d'accordo con questo, è d'accordo con quest'altro? No, non ho capito. Io sono d'accordo per l'integrazione. Vabbè, ma tutti siamo per l'integrazione, che vuol dire? E dunque? No, quindi da una parte vorrei eliminare i campi Rom, se però loro si adeguassero alle nostre leggi, alla nostra cultura. Dal momento e se non si adeguano invece che succede? Li eliminerei tutti dalla faccia della terra. E come? In che modo? Come ha detto Salvini, li eliminerei tutti con una ruspa. E se loro restano là sulla terra, su quel terreno là, che succede? Li travolgiamo con la ruspa? Sì, li possiamo anche bruciare completamente. Bruciare completamente. Parenzo, ci sei o no? Che vergogna dell'umanità proprio. Che umanità bassa, schifosa. Che umanità putrida proprio. Putrida. Mi viene da vomitare a sentire questo. Dionigi Alessandria. Dionigi da Alessandria. Una umanità putrida. Dionigi, allora, dimmi. Io sono un piccolo imprenditore, un agricoltore, no? Sì. Che ha sempre votato a sinistra. No? E perché mio padre mi aveva insegnato che mi devo sempre mettere nelle condizioni di capire le situazioni degli altri, quindi ho avuto dei dipendenti, sono sempre andato d'accordo. Io penso che la gente come Parenzo e come la Boldrini alla sinistra faccia un male della Madonna, perché le posizioni che giustificano i comportamenti sbagliati, che sul lavoro non considerano che tra il padrone e l'operaio ci deve essere la stessa voglia di far progredire l'azienda, no? E quindi tutte le volte che Parenzo apre la bocca porta dei voti alla gente come Salvini, che ha delle posizioni che io non condivido. Però in quella maniera, ma per esempio quando dice cosa, scusi? No, quando giustifica tutto quello che i rom fanno, dicendo che va bene, bisogna osservare legalità, questo, l'altro, però poi in pratica è un atteggiamento di giustificazione di quello che Parenzo, fanno. Parenzo? Ma io non ho mai giustificato proprio un bel nulla. Ma non giustifico niente. Uno che ruba non l'ho mai giustificato in vita mia. Ho detto che chi fa politica come Salvini sulle spalle di questa gente, immaginando le ruspe, che non ha mai mandato neanche tanto governava la città. Vabbè, adesso lo vuole mandare, adesso lo vuole mandare. Dai, ma di che cosa parlate? Di che parlate? Della propaganda sulla felpa, si scrive Rom sopra lì, va lì con la ruspa, Rom, si fa vedere lì e poi che succede? Non si risolve così la roba, ci vogliono soldi. Ma se lui, ma che soldi? Gli abbiamo dati fin troppo i soldi, basta. E li hanno rubati. Sì, ma li hanno rubati, perché invece se non li rubavano gli altri, dai, su, via. Gli altri. Torna alla segreteria telefonica 02-46-52-40-10. Ripeto, 02-46-52-40-10. Il ventre dell'Italia. Voi due fate ridere i polli, fate ridere i polli. Animalari miei, siamo al top, avete rotto il cazzo con questi animali, li mettete sempre davanti alle persone, devo pagare 800 euro di IMSS fra due mesi, che cazzo me ne frega a me. Parenzo, testa di cazzo, trovati un semaforo e mettiti a lavare i vetri, merducolo. Oh, grande raccomandato Cruciani, lei diventa ogni giorno più intelligente con la sua trasmissione, anzi adesso parla pure di gay, di adozioni. Io mi rendo conto che la lobby dei gay le ha riempito tutte e due le tasche. Ciao! Cruciani, potrei avere la ricetta del gatto alla veneziana? Per cortesia, se mi dai la ricetta del gatto alla veneziana magari mangio qualcosa di diverso nei prossimi giorni. Grazie Cruciani. Cruciani, ringrazio da parte mia quei 100 deputati che hanno depositato la proposta per legalizzare la marijuana. Grazie Cruciani. A domani 18:30, ciao. Allora, io volevo chiedere alla vostra, se era possibile cambiare il nome della trasmissione La Zanzara con Lo Scroto, perché a volte Lo Scroto, che è il noto contenitore dei coglioni, come sempre, ecco, ma con benevolenza, sia chiaro, cioè con simpatia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente La Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.